Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Benvenuti signori, Voice Anatomy, Radio 24 in diretta, sono le 14, 33 minuti e 25 secondi, oggi 20 marzo. E a Recanati, il 20 marzo del 1890, nasceva Beniamino Gigli. È stato il più grande tenore e attore italiano, uno dei più celebri cantanti d'opera del XX secolo, famosissimo in Italia, ma soprattutto all'estero. La voce di Gigli è considerata una delle più belle, non solo di tenore del secolo, omogenea, dal raro timbro che univa smalto e morbidezza, musicalissima, non amplissima, ma eccezionalmente dotata di armonici naturali, e a tutt'oggi inconfondibile anche al primo ascolto di uno dei numerosissimi dischi. Alle doti naturali seppe unire una tecnica agguerrita, in particolare nell'emissione mista del falsettone. Beh, ascoltiamocelo un po' in questo O Sole Mio. Non potevamo cominciare meglio così a Voice Anatomy. Buona Domenica delle Palme a tutti voi, e ce lo dice anche il nostro amico Claudio, già si è impossessato del primo SMS, ve lo ricordo il numero 349-238-6666, se poi volete partecipare in diretta con noi anche vocalmente, visto che la trasmissione lo permette in tutti i sensi, 800 24 00 24, e non dimenticate tutti i nostri social, compreso ovviamente il più cliccato che è Facebook, va bene? Cerchiamo di arrivare a 3000, cioè siamo già a 3000, mi dice dall'altra parte il nostro autore, eccolo lì, pronto come sempre insieme ad Alessia Navarro, il nostro amico Damiano, e mi dice di utilizzare anche oggi la radio in maniera privata, lo facciamo, insomma, quando si tratta di mamme e di nonne non si può che sottolineare. Auguri a nonna Andreina, la nonna di questo nostro autore. Non dobbiamo dire, non possiamo dire quanti anni ha, ma insomma 32, sicuramente intorno ai 32 anni. Ancora Gaia, grazie, come nostra capo redattrice, Alessandro dall'altra parte del vetro, e vicino a me la prima grandissima ospite. Sapete che cominciamo sempre dando la precedenza agli attori doppiatori, proprio perché si parla di voce in tutte le sue declinazioni. Lei è una straordinaria attrice e doppiatrice, nasce a Roma, diciamo soltanto che nasce a Roma il 22 gennaio, per cui e basta, tu annuisci e basta. È una direttrice di doppiaggio ed è anche una cantante, perché è attiva, sì, ma insomma è una cantante perché si attiva fin da bambina. Sei stata la voce di uno dei cartoni, ma poi lo ascolteremo, più importanti, come molta gente c'è cresciuta, si è anche disperata, qualcuno è andato dallo psicologo perché tu eri Heidi, vero? Eri Heidi, sei anche sorella di un grande direttore e doppiatore che abbiamo avuto già ospite, che è Marco. Il cognome fa ben sperare, visto che è Guadagno. Lei è Francesca Guadagno, benvenuta. Ciao, grazie Pino, ciao a tutti. Grazie a voi sempre di prestarvi a fare questo percorso insieme. Però io ancora... Tu hai mandato veramente dal dottore tanta gente, cioè, dall'avvocato, dallo psicologo, dall'avvocato, dal divorzista, da tanta gente, in periodi non sospetti. Era il 1975, quando una piccola fanciulla rispondeva al telefono al grande Domenico Modugno. Esatto. La canzone era Piange il telefono. Ora, ovviamente, ecco, io la ascolterei e poi ne parliamo. Questa è la piccola Francesca Guadagno e Domenico Modugno. Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma c'è qualcuno che... Chi sei, signore dell'altra volta? Vado a chiamarla, ma sta facendo il bagno, non so se può venire. Stessa voce, se ancora... Ah, ma siamo in diretta? Sì, sì. Sentite la disperazione di quest'uomo. E anche mia, Sentite, ascoltate. Piangiamo insieme. Ma tu, hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre: digli che non ci sono. ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è mia vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età. No, io ho 5 anni, ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta. Piange il telefono. Che storia. No, però voglio farla sentire, perché la gente che non la conosce deve sapere che quando abbiamo comprato questo disco, una disperazione, poi non c'erano divorzi quel periodo, insomma, gli anni 70. No, e proprio questa canzone ha avuto successo proprio per questo motivo, perché nel 1975, se non sbaglio. Sì, 75. No, se non sbaglio, ci fu la legge per il divorzio, quindi le prime famiglie si iniziarono a rompere, a separare con questa canzone. Poi quindi come finisce? Drammatica da morire sta bambina, sì, che è la figlia. Sentiamo, sentiamo. Andate a villeggiare all'hotel Riviera. Ti piace il mare? Oh sì, tanto. Lo sai che so nuotare? Ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? E sono proprietario. È il mio. Dille la mia pena e quanto a tutte e due. Poi la disperazione. Ci vuoi bene? Ma io non t'ho mai visto. Così è tipo romanzo criminale, però. Piange. Perché? Piange il telefono. E qui il refrain, ma ancora non è finita, cioè l'ultima strofa che è disperante proprio. Disperante, eh? Sì, gli attacca il telefono e va via. Sì, no, non mi ricordo qual è l'ultima frase, perché è drammatico. Allora, addio. Quanti milioni di copie? Poi la voce di Mimmo. Abbiamo venduto più di 1 milione di copie di 45 giri e poi... Poi dopo vennero fatti i famosi LP 33 giri, videocassette, come il si dice? Il film. Tu l'hai fatto il film? Sì, sì, sì, ero come attrice sul film. La piccola Francesca Guadagno. La ex piccola Francesca Guadagno, sì. Ma io voglio sentire come finisce, perché anche chi è in ascolto in questo momento, che non la conosce, magari o la conosce e vuole ricordarsi. Eccolo, ci siamo quasi. Domani, eccolo. Lo saprai. Eccoci il dramma. Falla aspettare. Sta uscendo. Sta uscendo. Falla fermare. È andato via. T'ha lasciato solo a casa, però. Sei andata via. Senti qua. Allora, addio. Arrivederci, signore. Ciao piccola. Ma è una cosa tristissima, la gente che piangeva. Conto le canzoni di Corrado, Gianni Bassotto. No. Dopo quelle sono venute tutte dopo. Questa è stata l'inizio del... Sì, fu, credo che non è per bambini. Una fra le prime, no, assolutamente. Beh, è una canzone di Claude François tradotta da Domenico Modugno. Sì, chi ebbe Piange le téléphone. Le téléphone pleure era. Le téléphone pleure. Era uguale. Sì. Non so, io non l'ho mai sentita, però insomma era, è una delle poche canzoni in internet. Street. Esiste una versione francese. Sì, dovrebbe esistere. Le téléphone pleur. Pleur, scritto player. Non lo so, è francese, so che era le téléphone pleur. Francese non lo so, non sono imbecille. Ma per cui è cominciato così? È cominciato così per caso, io avevo poi già doppiavo, perché ho iniziato a lavorare da bambina a 4 anni. 4 anni è lavoro minorile, vero? Sì, beh, però ci si divertiva, si giocava. Io che poi... cosa hai fatto all'inizio? Perché la famiglia Rossi cominciò a Aristogatti e quant'altro. Tu? No, io ho iniziato con un film con Fede Arnauld, che era... Grande direttrice di doppiaggio, che era Bianco, Rosso e... Un film insomma, non ricordo, avevo 4 anni, non mi misero lì. Sofia Loren, eccetera, non ricordo, ho un ricordo di un De Sica, ma non voglio sbagliare. Può darsi, i nostri può ascoltatori darsi saranno attentissimi e mi correggeranno. E quindi già è doppiavo. È bellissima che dicono la parodia di Bramieri e Mondaini su Piange al telefono. Sì, poi da lì ci sono state veramente qualsiasi dopo, anche noi della premiata ditta. Sì. Abbiamo navigato su quel mare, anzi fra un po' verrà ospite Tiziana Foschi, con la quale percorreremo un po' insieme dei momenti molto belli. Che cosa dice Alessia Navarro? Dimmi. Alberto Latuada, Bianco Rosso, grazie, grazie. Prima hanno anticipato. Questa è quella francese. Mai sentita? È quella. C'è meno disperazione però in lui, vedi? Senti. Sembra un po' giapponese la bambina. Io parlo a te. È più elegante, è più bella. Vabbè, la nostra, è più bella la nostra. Sentiamo lei. Tu mi fai qualche cosa a mamma? Elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours pas attends que je suis pas là. Ashley papà. L'avevo mai sentita? No, accidenti. Ma io non sapevo che venisse, sì, vedi, sì, quante cose si imparano anche. Sì. Poi vedi la vocalità, questa anche come questa può essere il doppiaggio, no? Nel senso, è un'altra traduzione che però nulla toglie all'originale, anzi, secondo me aggiunge, perché la voce di Domenico Modugno c'è più disperazione. Beh, perché a lui piaceva molto recitare, secondo me. Beh. Mimmo avrebbe, infatti ha fatto anche delle cose da sì, sì, sì, anche a teatro, cioè, Rinaldo in campo. Tantissime cose. Quel per cui finale, la... con Se Dio vorrà. Se Dio vorrà. Dobbiamo chiudere il primo blocco. Già? Quanto manca? 30 secondi, ma è già il primo blocco andato. Mamma mia, Io aspetto. Tu rimani qui. Io rimango qui. Senti, tutti lì, rimanete in attesa. Rimanete in attesa perché poi torniamo, Voice tutti Anatomy. Qui, ciao. Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Bentornati, Voice Anatomy. Vicino a me la piccola Francesca, l'ex piccola Francesca. Guadagno di piange il telefono. Molte persone stanno scrivendo. Io già ho risposto e non voglio creare ancora e dare ancora a forza a questa realtà. Sai che Vincent Cassel si è lasciato andare l'altro giorno dicendo il doppiaggio italiano, una mafia, una lobby, eccetera, eccetera. Ora, io personalmente mi hanno chiamato, ho risposto serenamente perché ho detto se stiamo ancora a questi livelli è follia pura, anche perché Vincent Cassel è un attore francese dove il doppiaggio in Francia impera tanto quanto in Italia, come tutta l'Europa. Non voglio più rispondere a queste provocazioni. Sono provocazioni e basta. E perché si fa solo pubblicità a chi le dice. Esatto. E esatto. Per cui mi sono un po' stancata. Ognuno fa. Si è lamentato che il suo accento corso non si sentiva. Ora, se tu traduci in italiano, ovviamente. L'accento corso è italiano. Diventa italiano, che puoi parlare un po' in francese. Se... Un po' in sardo, tutt'al più. Sì, ecco. Rispetto, ma non puoi mantenere quello come se tu doppi un attore italiano in Francia che è pugliese. Si perde l'accento pugliese, è ovvio, a meno che non fai un accento francese del nord, perché è il contrario da loro. È una codifica, una traduzione, per cui la mia risposta è stata serena, tranquilla. Dico, Vincent Cassel è famoso in Italia anche grazie allo splendido doppiaggio di Roberto Pedicini e anche Massimo Lodolo, che si alternano ogni tanto su di lui, e anche la Fabrizia Castagnoli è sempre stata molto brava nella traduzione, adattamento e direzione dei film francesi. Per cui l'unica cosa che possiamo invidiare alla Francia è che sono molto più attenti di noi dal punto di vista artistico, hanno una garanzia che almeno il 60% del cinema è francese in Francia, e c'è qualche sala in più che dà i sottotitoli, fine. Per il resto sono solo piccole provocazioni alle quali rispondere. Sì, secondo così. Me hanno trovato il modo un po' tutti per farsi pubblicità. Ma soprattutto è brutto dire lobby, mafia, insomma, abbinata a una professione. Non è così, sì. Non è così. Ho detto pure sarebbe passibile denuncia. Ma ci vuole talento per fare doppiaggio. Anche quando abbiamo doppiato un film americano dove lui faceva l'americano russo, che era La promessa dell'assassino, io doppiavo Viggo Mortensen con una pronuncia italiana russa, e Riccardo Rossi fece Vincent Cassel benissimo in questa pronuncia italo-russa, ovviamente, perché si dà per convenzione il fatto, certo, che parli in italiano. Va bene, viva Vincent Cassel, viva Monica Bellucci. Torniamo invece a Francesca Guadagno, che il primo blocco se n'è andato su Piange il telefono, quando la carriera è lunghissima, tanto tornerete perché le trasmissioni sono lunghissime. Un'altra grande che ci ha fatto piangere, distrutto, tu ci hai distrutto l'infanzia un po' a tutti, perché Heidi, abbiamo la sigla di Heidi, non la voce, questa è la sigla, eccola qua. Queste Heidi, quanti anni avevi? Allora, non avevo, stavi là sui monti sulle caprette. Avevo 8 anni. Pure lì, ma c'è sempre 8 sì, anni. Era quasi... Ed era quasi in contemporanea con Piange il telefono, certo, infatti. Ti hanno dato una pastorella boraccia, fia di nessuno. Mamma. Chi cantava la canzone? La Elisabetta Viviani. Elisabetta Viviani ha fatto la sigla e noi abbiamo lavorato per mesi a questo drammone. Quante puntate sono state? Quante stagioni? Perché prima si parlava di stagioni. No, come forse adesso. Erano 54-56 puntate, ma all'epoca con i tempi più tranquilli, fu una lavorazione di 6 o 7 mesi. Adesso sarebbe. Chi era nonno? Chi lo doppiava? Nonno era il mitico Sergio Fiorentini. Oh, quanto ci manca. Poi avevamo la signorina Rottenmeier, che era una esilarante. Rosalba Calavetta, la voce di Marilyn Monroe, e poi c'era Riccardo Rossi, che era Petar. È vero, Riccardino. Infatti ogni volta che ci incontriamo al lavoro, ah, è di Petar. State bene, non state bene. No. Come dice Battista, non state bene. No, a noi ci rimane sempre lo spirito da dodicenni, no? Poi lo sai, è un lavoro, si chiamano player in Inghilterra e jouer in Francia. Esatto. Chi fa il nostro mestiere? Esatto. Giochi con la G maiuscola, dovrebbero giocare tutti in tutti i mestieri, cioè divertirsi mentre si fa un mestiere, qualsiasi esso sia. Non è il chirurgo deve ride mentre opera il cuore, ma se deve divertire, no, però so gli che deve piacere. Molte sale operatorie però mettono la musica bella, alta, sparata. Devono assolutamente. Bisogna avere un'energia positiva. Che assolutamente. Questa, balla anche quello sotto in anestesia. Ancora esatto. Se sveglia e canta, qualche problema c'è. Ce la sentiamo? È partito il romano. D'altronde siamo a Roma. Sentiamoci invece la voce di Heidi, la nostra piccola ormai immortale. È uguale a quella di Piange al telefono, eh? Vabbè, sentiamo, 8 anni, non è che all'improvviso no. Se almeno smettessi di nevicare potrei uscire. Mi sembra di essere prigioniera. E poi qui non posso neanche giocare. I cani hanno buon fiuto. Forse riuscite pure a sentire quando cambia tempo. Potresti essere un po' più educato ed aprire gli occhi quando parlo con te. Tu che vivi qui già da tanto tempo, nonno, non sai quando smetterà di nevicare? Non potrà nevicare per sempre. Parafrasando Luca Ward nel Corvo, che poi verrà, perché ve lo chiedono, quando viene Luca. Luca sta in tournée, non possiamo averlo per telefono. Arriverà. I primi tre del doppiaggio italiano, quando scherziamo noi, chi sono? Luca Ward. Sempre lui. Ma sì, ma ci giochiamo. Ovviamente c'è grande affetto e grande stima. E allora, però ti sei fermato 8 anni, insomma, sei andata avanti. Sono andata avanti. Adesso ce n'hai 12, 13. E adesso ne ho circa 22-23. Esatto. Bucia. Ma se la radio è la voce, è anche questo. Tu hai una voce che è rimasta fresca, brillante. La puoi alleggerire o appesantire come vuoi. Sì, dopo torneremo con i nostri ospiti a parlare veramente di vocalità più tardi. C'è un mondo veramente. E noi siamo, ne parlavamo prima con Francesca, certo, cioè, siamo un po' ignoranti noi che facciamo questo mestiere e non studiamo abbastanza foniatria. Sì, non facciamo esercizi di riscaldamento. Esatto, mentre sono dei muscoli, bene o male, piccolini, ma muscoli. E molto importanti, perché io poi 2 anni fa ho avuto un mese di... Sono stata senza voce proprio, cioè tossivo pure, che rantolavo, mi è preso un colpo e ho scoperto di avere un banale ma comunque importante reflusso gastrico e lì mi sono veramente resa conto, dico, ma questa voce, questo strumento che bene o male insomma ci ho fatto una carriera. Guarda, di là sono già arrivate coloro che saranno ospiti dopo Tiziana Foschi, sono delle grandi studiose allora, della voce. Dopo magari chiedo anche qualche consiglio. Entra, venite, tanto è giusto, c'è Eleonora Bruni, Erika Biavati, Eleonora l'abbiamo già avuta e sono delle grandi insegnanti voce, per cui... Adesso chiederò qualche consiglio allora. Vero, perché, ecco, un'intervista, come dicevamo prima, venite. Siamo molto. No, potete parlare ad alta voce tranquillamente. Ciao. Ben arrivate. Di là è bello. Noi continuiamo a parlare con lei, ma insomma, ci siete, state qui con noi. Dopo parleremo approfonditamente di voce, di come studiarla. Avremo. Fra pochissimo avremo la conferma del nostro ministro della pubblica istruzione, alla quale veramente ho martellato in tutte le puntate, ed essendo una persona molto attenta, per cercare di mettere nelle scuole lo studio della vocalità. Anche perché i bambini saranno i futuri manager, i futuri dottori, i futuri insegnanti, i futuri politici di questa nazione. Per cui è giusto. No, ma qualcosa accadrà. Aggiustatevi il microfono, così se dovete intervenire... potete farlo, ecco l'altro Erika e l'altro microfono sono lì. Francesca, insomma, Piange il telefono e Heidi, però insomma ci hai fatto anche divertire, hai fatto anche abbiamo Tutti pazzi per Mary. Dove, chi eri a Tutti pazzi per Mary? Mary. Mary. Neanche Darsi la mattina, se non fai il nome del protagonista. Era Cameron Diaz. Cameron Diaz, no? Eri sì, tu, sì, ce sì, la sì. Ascoltiamo? Ciao. Come stai? Bene, e tu? Bene, sei bellissima. Grazie. Cos'è quello? È sull'orecchio. L'orecchio? Ah no, l'orecchio sinistro. È gel per capelli. Sì. Bene. Non farlo, non è necessario sì. toccarlo. No, lascia. Vabbè, tutto. Io l'ho finito. Beh, questa è la scena un po' forte. Beh, le risate quando l'abbiamo vista per la prima volta e doppiata, non riuscivamo ad andare avanti proprio. No, no, molto del film è molto bellissimo. C'è Ben Stiller, se non c'è Ben Stiller, sì. C'è tutto con Adam Sandler, sono molto no, no, simili. Ben Stiller, sono Adam Sandler e Ben Stiller. Sono i nostri Riccardo Rossi e Vittorio Guerrieri che si mettono su questi. Qual è il film che ti ha dato più soddisfazione? C'hai 30 secondi perché dopo andiamo a pubblicità e poi torni. Tanti, non lo so, non saprei dirtene uno. Sono 40 anni e più di carriera, non ce ne può essere uno solo. Ci sono state delle anime importanti anche tu, Marco, ti ricordi più che eri, hai fatto i primi 50 episodi di Ranma. Ranma Mezzo, sì. Sono molto attenti, guarda che bello. Ce lo ricordano loro quello che abbiamo fatto, non ce lo ricordiamo noi, sì, capito? Sì, è vero. Ranma, io non ho mai visto Mezzo, e Chicchio. Ero Chicchio, sì. Eri Chicchio? Ero Chicchio, il mio nome era Chicchio. Come parlava Chicchio? Mannaggia. Pure Kasumi su chi ero, Kasumi? Kasumi Tendo. Sui primi 50 di Ranma Mezzo e Chicchio... Dalla seconda alla sesta serie sto leggendo, Inuyasha. Di Inuyasha, sì. Beh, come dimenticare. Sì, sì. A tra pochissimo, ancora con Francesca Guadagno e Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci qua, bentornati Voice Anatomy, vicino a me. C'è la solita Francesca Guadagno, solita perché sono due blocchi che sei qui con noi, ma vicino abbiamo una trasmissione integrata, c'è Leonora Bruni e c'è Erika Biavadi, sono esperte di voce con le quali parleremo approfonditamente verso la fine della trasmissione, ma è giusto, sono già qui e rimangono con noi, fate sentire, ci siete. Buonasera a tutti. Ci siamo. Nostri ascoltatori sempre molto molto attenti, nei fanta genitori sei Wanda, mia figlia è pazza di lei. Sì, Wanda, come qua i fanta genitori. Dimmi, che cosa dobbiamo fare? Concordo con Pino, doppiatori italiani mafiosi? No, è il solito pregiudizio, Italia uguale mafia. È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio, dice Albert Einstein. Pensa un po' che citazioni che ci manda, ragazzi, qui non è... Forrubiti! C'è qualcuno che dice che noi, che i doppiatori impediscono di conoscere la vocalità dei grandi attori, ma non è così. Allora anche un libro vi impediscono di leggere le parole esatte che ha scritto Shakespeare o che ha scritto Hikmet o che hanno scritto García Lorca. Dostoevskij. Leggetevi Delitto e Castigo, leggetevi I fratelli Karamazov in cirillico. Ma veramente, queste sono veramente delle cose, per carità. Pronti a tutto, sempre e comunque. Dovete studiarlo a scuola, l'inglese, il francese, il tedesco e quant'altro. Guadagno, Wanda, fate genitori. Però leggiamoci una cosa. Ogni tanto quando viene, cioè quasi sempre, quando viene un attore doppiatore, cerchiamo di andare in contrasto con la propria vocalità, la Tota con De Sando, la voce di Robert De Niro e non solo, Brian Creston, eccetera. Abbiamo recitato Anima Mia dei Cugini di Campagna con Giuppizzo, Lazio Sassuolo in maniera sexy. Qui abbiamo scaricato un pezzo da un film molto importante. Noi cerchiamo di leggerlo invece in maniera... come una bambina, visto che tu ecco, sei rimasto ecco, 8 Giuppizzo anni. Gli fate fare la sexy a me la bambina, ma non ho capito, vabbè. Vedi che la mantieni va voce. Bene, allora recitiamola un po' con un sottofondo particolare, sta venendo anche Damiano a riprenderlo perché poi lo metteremo sempre su Facebook. Ah sì? Voi dovete indovinare di che film si tratta. Allora comincia un dialogo, ovviamente comincio io. Ma io vi darò tutto quello che volete. Da molti anni ci conosciamo. Ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Anche se mia moglie fece pure da madrina a tua figlia. Ma diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi. Avevi paura di trovarti in debito. Come Natale in casa Cupiello è diventato. Non mi volevo mischiare in queste cose. No, questo l'ho capito. Capito? Capito? No. Trovasti il paradiso tuo in America. Commercio avviato, vita sicura. Polizia che ti protegge, mannaiame seria, giustizia in tribunale. E diventa di tutto, diventa. A che ti serviva un amico come me? Ma ora, vieni da me. Fai la voce afona. Oh, e mi dice... ma ora, vieni da me, mi dice... Don Corleone, fatemi giustizia. Però non lo domandi con rispetto. Tu non offri amicizia. Non ti sogni nemmeno di chiamarmi padrino. Invece ti presenti a casa mia il giorno che si marita mia figlia e mi chiedi un omicidio a pagamento. Io vi chiedo giustizia. Questa non è giustizia. È un esorcista. Tua figlia è ancora viva. Anche tu hanno a soffrire che lei soffre. Dici tu il prezzo e io pago. Ma che dici, buonasera? Che ti feci mai per meritare questa mancanza di rispetto? Ma sembra dopo Ciccio qui, che mi dici mai? Va se bene. Venivi da me in amicizia, i bastardi che hanno sfigurato tua figlia avrebbero una punizione oggi stesso. È una punizione. Eh? Una punizione? Ah no, ho capito, petizione. Punizione. Ah, scusa. Se per questo un onesto uomo come te si trovasse dei nemici, quei nemici diventerebbero nemici miei e avrebbero paura di te. Ecco, di che film si tratta? Che abbiamo distrutto. Non avete capito nulla? No, qualcosa... Chiedo scusa a tutte le regioni d'Italia per i pessimi dialetti. Alle Iene Luca Ward ha svelato che c'è un doppiatore detto Terza Gamba. Fuori il nome, ma non lo so. Perché? Ma no! Ma che cosa ha detto Luca? Non lo sappiamo, non è che doppiamo in costume da bagno o in costume da mitico, ma su, spero che non sia quello che pensiamo tutti. Ciao Francesca. Io lo so. Tu lo so. Andiamo bene, vabbè. Tu non sei sposata. No, me l'ha detto sotto... Ma vabbè. Ciao Francesca, quando hai doppiato Laura Linney in The Truman Show avevi la percezione che questo film sarebbe diventato un cult. Che ricordo hai di questa esperienza? Ce l'ascoltiamo? Ci ascoltiamo il Truman Show, il pezzo di Francesca, prego. Il Truman Show è uno stile di vita, una vita esemplare. Ecco. Voglio fare qualcosa per te. Tu non stai bene. Dimmi che sta succedendo! Hai un esaurimento nervoso, ecco che sta succedendo. Ci sei dentro anche tu. Ah! Fate qualcosa! È scappato. Ecco, insieme a Roberto Pedicini, che è stato un grandissimo ed è tuttora bravissimo a doppiare il nostro grande attore Jim Carrey, il nostro in senso lato, insieme a avete fatto tutti i doppiaggi insieme per questo film? Grazie anticipatamente, Claudio. Oddio, sai che non ricordo, perché ormai la tendenza è di lavorare soltanto in colonna separata. Sì, anche per e credo dopo che meglio. Il film abbia, ne parlavo proprio pochi giorni fa, perché ero a Margutta, che è questo studio di registrazione storico, e ricordavo appunto questo film Truman Show doppiato lì e credo di averlo fatto in gran parte da sola il film in colonna separata. Conto che sarebbe stato un grande film, ma guarda, lì per lì non capivo, non si capiva nulla, perché poi di lì a poco anche in Italia arrivò il Grande Fratello e esatto. Quindi capimmo tutti un po' meglio. Ancora Orwell era soltanto un romanzo, era un po' esagerato, visto così, insomma, sì, sembrava un po' una follia, è una grande realtà. E invece in quegli anni, poi appunto con l'avvento del Grande Fratello proprio in televisione, questo voyeurismo nel guardare la gente e spiare è diventata una moda, insomma, sì, anche se si è persa anche lì, insomma, forse le prime edizioni, prime edizioni, però insomma hanno non fatto sapevano scalpore. Di essere guardati, allora adesso sai quando entri certo. nella casa del grande fratello sai perfettamente esatto. Che ti guardano, allora esageri, sì, in tutti e i sensi. Dicono il padrino, dice Raffaella, sì esatto, era il padrino, era il padrino, bravissima Raff. Chiediamo scusa a Coppola a tutti proprio. Ma Vincent non si rende conto che un buon doppiaggio migliorerebbe anche la recitazione della moglie, dai, vi prego. No, invece è brava Monica nel doppiarsi anche, non entriamo a questa cosa, no, perché vabbè, poi diciamo Vincent sarà grosso, secondo me lui è mena pure. Poi non so da quale parte della Francia venga, se viene dalla credo corsa. Sia parigino è parigino, non è, parigino non è marsigliese, no. No, no, vabbè, è molto bella Monica Bellucci, che dà una bellezza che rappresenta un po'... Anche una brava attrice. Lei è uno dei primi film che fece con Claudia Mendola, che facevano i ladri. E ah, lei che faceva la parlava spoledina. E lei parlava umbra. Proprio in umbro, spoledina, era bravissima a parlare in umbro, no? In umbro, va bene. No, no, no, no, vabbè, no, dai, no pure... per carità, ma non, nessuno dice niente, è bellissima davvero. Rappresentiamo io e lei la bellezza maschile e femminile mediterranea nel uguali, mondo. Uguali, uguali. No, voi che c'è... voi non potete, non siete ancora ospiti ufficiali. Va bene, voi due, non mi piacciono questi sorrisi ironici, assolutamente. Complimenti a Francesca, ovviamente. Poi quando arrivano i messaggi un po' più duri mi piace leggerli, io dico sempre. Certo che sì, no, dobbiamo leggerci soltanto le sviolinate. Io lo ricordo da 29 puntate, il messaggio più cattivo e più bello che ho ricevuto qui è stato della signora che dice: finalmente è domenica, posso avventurarmi nelle pulizie di casa perché tu, caro Pino, al mio aspirapolvere avete la stessa voce. Bellissimo. Poi lo ricordo, da 29 puntate. Per ora è il numero uno della cattiveria. Però fa ridere, ci sta, insomma, anche questo. Insomma, non è che bisogna piacere. In che cosa ti stai? Ma tu, teatro? Teatro no. Canzoni? No. Sigle tu le hai fatte come Giorgio Lepore? No, no, no, no, no, che no, chiameremo? No, no. Tu sigle di no, sigle no, no, di no, no, io ho fatto soltanto Piange il telefono e poi... Abbastanza, Altre due piccole cosine che feci un altro 45 giro dove, 45 giri dove c'era un mio papà da una parte, sul lato, e dall'altro 8x8 asino cotto. Ma è stato... Si trova quello, se lo cercate lo tipo trovate. Tipo i film miei, che io ho fatto dei film dimenticabili praticamente, che li mandano... Prestissimo ci sarà una serie, I Dimenticabili di Rete 4, andranno tutti e sei i miei film che ho fatto, no, no, sicuramente. No. No, ho fatto qualche cosa come attrice, qualche piccola cosa sulla Freccia Nera, ero fissa. C'era una Freccia Nera, sì. Fischiando si scaglia, ma la vecchia Freccia no, Nera? No, no, no, la vecchia non ero neanche nata, Zio Pino, vabbè che so, insomma... Capito, Loretta Goggi c'era, non ho capito. C'era Loretta Goggi, no... È più grande di te. Amore. Chiedo scusa, Francesca, non verrà mai più ospite. Amore. Io ho dato della settantella, perché poi Loretta io, è grande. Io perché quest'uomo l'ho amato, è io bello. Ero innamorata di Pino, esatto. Ero bello, da adolescente. Sì, avevo sì. La locandina di Pino che faceva teatro in camera da letto e guardavo questa locandina innamorata di Oppino. Oppino, non mi si è mai filato. Ma sapete che avete voi donne. Noi siamo diventati amici e sì, basta. Ma voi vi dimenticate una cosa, di dirlo all'uomo di fronte a voi. Che io... E lo so, ma io ero giovane. Capito, e l'uomo no, deve no. prendere l'iniziativa. Ma io sono ancora un po' vecchia a scuola. Sai che l'uomo ha anche paura di prendere una buca. Adesso Francesca stiamo diventando una trasmissione completamente diversa. Sta diventando... Però ero pazza di te, Pino, te l'ho sempre detto. Sì, e ma mi ha detto dopo 15 anni. Mi sono sputtanata anni. Davanti a tutti. Ma non ti sei sputtanata? Era un uomo lo so, dopo 15 anni ho avuto il coraggio quando mi è passata. Capito, me l'ha passata tutta, saremmo fidanzati, ci eravamo sposati. Insomma, tu già ci avevi avuto tutto, capito? Ci avevo avuto già, ci abbiamo 8x8 asino cotto. Attenzione! Sì, sì, sì. Una sì, volta sì. Una bambina dolce e ingenua che si chiamava Mafalda e che si era innamorata di un bambino che si chiamava Charlie, che aveva una grande testa, doppia di quella degli altri bambini, perché ci doveva stare dentro tutto quello che sapeva, se poi lo sapeva. Cos'è un tramvai? È un coso che va. Beethoven chi è? È un pittore, si sa. E 3x3? Fan 33. E 8x8? Asino cotto. Lo so. C'ho gli scheletri nel cassetto. Ti piacevo io. Hai cantato 8x8 asino cotto. Ma a io... quell'età mi piacevi, Pino, quando avevo 8 anni. No, no, no, ero più grande. Eri più grande, eri maggiorenne, mi ricordo sì, qualcosa sì. del genere. Senti, qui arrivano tante forse domande. Forse no, non ero maggiorenne, però... Mannaggia, ho perso un'occasione pazzesca. Buongiorno, domanda: quanti doppiatori ha avuto Leonardo DiCaprio? Lo stesso, sempre Pezzulli, non sbaglio? A parte credo quando era piccolo, volta, piccolo. Credo ma... qualche volta Fabrizio Manfredi all'inizio. All'inizio, ha però. Ha doppiato qualcosa Fabrizio perché Manfredi. Perché poi sono tantissimi anni. Beh, che sì, sempre da è... Titanic fino a The Wolf of Wall Street. È sempre lui. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. L'ho sentito la vostra radio, sì. Sì, Truman Show è un grande cult, dice Carmen, sì. Sì, un Carmen, sì, un Carmen. Sto bene. Carmen. Beh, calcolando che cominciava soltanto da 40 minuti di trasmissione, già sto così, non so come mi interfaccerò con le nostre esperte. Dall'altra parte è già arrivata anche Tiziana Foschi, puntata ricca. Micificca. E adesso che stai doppiando? Che cosa, adesso ho appena cosa finito di doppiare un film con Melissa McCarthy, che è questa attrice abbastanza in carne tipo me. No, è un'attrice straordinaria che in America ha molto molto successo ed è una star. In Italia non riesce ancora ad esplodere. Sì, ci sono quegli attori tipo quello che faceva Will Ferrell che non riescono ad esplodere. Ad esplodere in Italia, ma in America lei sono pazzi di lei proprio. Quella che ha fatto Corpi da reato anche. È bella, bella. Un po' dire, ma affascinante. Sì. Al suo perché. Adesso abbiamo fatto appena finito di fare The Boss, che dove lei è il boss. Ho fatto già la presentazione di Ghostbusters, dove ci sarà sempre lei. Ah, già è vero, dal punto di vista ed della è femminile. Tutto femminile questo Ghostbusters. E ho doppiata anche su Notte da Leoni, lei, insomma, devo è dire. Beautiful. Che Beautiful sono anni che la mia Macy non c'è più, la figlia di Sally Spectra, ex moglie di Thorn. Guarda, dopo morta una volta, l'hanno fatta rimorire la seconda volta. Ne hanno più fatto. No, ma ormai è lì, cioè, i figli stanno con i nipoti, con i zii, non c'è capito. È diventata un'altra cosa. Anticipando quello che succederà anche con Tiziana, con la prima da ditta, noi cominciamo proprio la serie Beautiful, quando Beautiful prese il posto di Quando si ama, e la gente urlò, no, Quando si ama, e poi Beautiful è esploso. Sì. Noi eravamo quattro erano i protagonisti, ha detto, beh, facciamo la presa in giro di questo Beautiful, e successe il finimondo, perché aveva quasi più successo della serie originale. Sì, sì. E da lì, infatti, Messi la faceva Francesca Draghetti, sì, che piangeva sempre, Sally Spectra la faceva Tiziana, che con la quale parleremo più tardi. Lo sai che siamo arrivati alla fine, perché manca un minuto, vero, con Francesca? No. Franci, può pure rimanere, tanto ormai la trasmissione è integrata. Non fa così, non fa bambina di 8 anni, fa sembra che sono cattiva io. Non l'abbrucio, non fa l'abbrucio. Non fa l'abbrucio. Dopo ci prenderemo anche il telefono e i siti dei nostri amiche, e dove andremo veramente a imparare qualcosa. Devo dire sì, dobbiamo. Sì, dobbiamo assolutamente, perché fanno delle cose. Mi fai l'urlo con che voce, com'era quello lì, sovraglottide? Sovraglottico? No, com'era? No, te rendi conto? Per esempio. Perché gli ho chiesto, come fanno io? Quelli che cantano metallo a non perdere la voce, eccetera, eccolo. E poi che c'è sopra e sotto? Sopra lei. Sopra glottide invece Erika. Oh mamma mia. Capito come stiamo qui? Ma quello, siete bravissimi. Quello è un sovraglottide. No. E quello era un sotto. No, questo no, era un suono sovraglottico, quello era un fischio laringeo. Quello è un fischio laringeo, che non è una malattia, cioè non è che c'hai l'enfisema. Uscite da quei corpi, esatto. Immediatamente. E allora dobbiamo salutare Francesca Guadagno e continuare con Tiziana Fosco. Le nostre due amiche rimangono ovviamente ospiti gradite qui in studio, e voi restate con noi. Grazie di tutti i messaggi che state mandando, è bello questa trasmissione a 360 gradi. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Ciao Francesca, ciao a tutti, ciao. Grazie, ciao tesoro. Buona domenica. Grazie. Ciao. Voice Anatomy. Bentornati Voice Anatomy. Stavo sorridendo perché arrivano tanti messaggi, alcuni dei quali sono veramente divertenti. Infatti, come dimenticare la Bellucci nei magnifici Colpo Gobbo a Milano, nella famosa battuta che gli ha aperto le porte del cinema, che dice: oh, ma che me stai scippar culo? Vabbè, ironia. Allora, mi ha raggiunto una signora che conosco da solo 30 anni più o meno. Ma come, fino a 33? Eccolo un altro che non vuole invecchiare. Tiziana Foschi, io sono felicissimo di intervistare la mia Buonasera, l'ascolto sempre. Davvero? Non sì. Sbatti? Ah, è vero, aspetta che mi devo imparare a radio, che non so capace. Ecco, a proposito di voi sanato. È bello che poi io, siccome scrivevano gli autori, dico, beh, dobbiamo presentare Tiziana, allora lei ha fatto, ho capito, la conosco da 30 anni, potete evitare la biografia anche perché è la stessa mia. Anche perché è finita, ma è finita la trasmissione. No, ma poi è la stessa, oltre 1000 puntate in televisione. Oltre sì. 1000 puntate. Devo trasferire tutto sulla voce? Come si fa? No, devi parlare normale. La voce normale. Normale. Oddio, io ho sempre odiato la mia voce, devo dire come la verità. Come tutti quelli che non fanno sto mestiere, però. No, come tutti i foschi. Perché tu devi sapere che a casa mia ci riconoscevamo dalla parte di mio padre per i capelli gretti e ricci e la voce nasale, tutti così. Allora a Natale, quando ci riunivamo, buon Natale, buon Natale. Io ho sempre odiato questa voce, ho dovuto lottare e lavorarci molto. Oddio, non so se sono riuscita a fare cose. Guarda, abbiamo qui Leonora, Erika, un po' di naso si sente sempre. Un po' di naso, io piante fa passare. È stato bello perché un giorno venne ospite, eravamo a Pronto Chi Gioca, venne Ornella Manoni. E Erika Bonaccorti ti ha detto: ma tu che la imiti bene. No, ma che le somigliavo molto. Sì, è vero, un viso così affusolato, eccetera. Tutti mi fermavano e dicevano: ma tu mi ricordi Ornella Vanoni? Tu sei fatta abbraccio e Ornella Vanoni non tante già. Ma che grazie. No, grazie, grazie. Non so se è ironico o no. No, grazie. Era vero. Ho detto grazie. Va bene, scusa, ma assomigli un po' ad abbraccio. Sì. Inizi da. Poi una signora un giorno mi fa: ma vedo che ci rimani un po' male, ma guarda che canta bene. Ho capito, ma io sono stonata. Allora. Allora lei si è avvicinata a Ornella Vanoni e lei gli ha detto: le ho porto dei fiori. Esatto. Ha mandato a me Erika Bonaccorti, esatto, a portarle dei fiori. Ha fatto: io più te fa impazzire, fa morire, non ho perché. E lei mi ha detto: se parlassi così sarei una denoidea. Perché te, cioè, da simpatia, quel giorno a parte essere aver camminato sotto la moquette per il resto della puntata. Sì, perché poi eravamo agli inizi, per cui non c'era neanche l'esperienza di poter affrontare un collega, virgolette, alla pensa stessa Lavanoni. Stregua. Lavanoni ci rimase. Ma che bella con... trasmissione, belli, non bravi. È colpa mia, è colpa di Alessia, di Damiano. Donna, le donne a te, guarda, danno... Boh. Io sono solo uno che emette un po' d'aria vicino alle corde vocali. Beh, ecco, bravo, no. Specifica. No, ho capito. Specifica. Da, anche per... Non entriamo in fattori personali. No, perché sennò diventa la zanzara. No. Esatto. Anche perché la sodomia adesso so quanto è arrivata a 200.000 euro. È troppo, io... con tutto l'affetto per Cruciani. Sì. Io... guarda, io se c'avevo l'attributo alla fine facevo un mutuo. No, non si può fare. Vabbè, sembra... risaliamo la china, va, sì, perché siamo ancora primo pomeriggio. Proposta indecente di Cruciani. Stupendo. È pazzesca. Ma quanto è erotico quell'uomo, raga. Ti piace? Quasi ti sta dando una pista. Perché tu sei di domenica, sei un po' più familiare, quello sì. È diventato un animale. Quello è così. Uno scortico continuo. Cruciani è così. Ciao Pino, anche a Pasquetta, mi piace passare la domenica pomeriggio insieme a te, la tua fantastica trasmissione. Un saluto fantastico, anche questa è la squadra della premiata ditta, anche se al 50%. Un abbraccione, vostro ascoltatore affezionato. Che Dino. Bello. Vabbè, no, ce ne arrivano tantissimi messaggi, sono veramente molto attenti. La trasmissione è cominciata ovviamente in sordina 30 puntate fa. Per poi dare un'abitudine importante, anche perché la domenica poi c'è il calcio, bene o male è un contrasto, però chi non vuole seguire il calcio come me che ho smesso. Ma poi questa tua passione verso la voce, da dove viene la voce, ma che potenziali ha la voce, ma è una roba... c'è un mondo, sì. Tiziana, un mondo davvero. Quando finisce il blocco con Tiziana me lo dite... A 28, ancora 7 minuti e poi abbiamo anche altri 7 minuti. Senti, io non sono mai stata sexy. Mo un microfono davanti. Il problema. Ti dico, c'ho una pruriginia. Guarda che c'è gente qui che ma no, così sulla moce. Ho capito, ma tu dici pruriginia, mi scrive sicuramente un laureato di qualche parte, dice: ma dai, te presa, come te permetti? Vabbè, ma noi si sa che. Non mi correggono neanche più a me. C'hanno Tiziana noi diciamo dalla bocca pure... grande. Ecco, manteniamo questa. Sì, no, perché sì, che c'era quella con gli occhi azzurri e quella con la bocca grande. Perché Tiziana è la donna dalla bocca larga. Tiziana è una donna molto bella. Però si è sempre trasformata senza pensieri, senza pensare al futuro, eccetera, e ti sei accorta, voi dice, ma così chi può... me se piglia? Così non saprà nessuno, perché non era mai normale. mai. Questo male. Per timidezza, ovviamente. Ho iniziato così, dico, almeno con una maschera riesco a dire tutto e essere nei miei panni. Come è nato il rapporto con la premiata? Quando nasce la premiata ditta e soprattutto nasce con te? Ma come è successo l'incontro? È successo che voi mi avete chiamato, eravate allora Allegra Brigata, mm-hmm. e mi avete chiamato al Gino Bramieri Show al Sistina e facevo l'albero. È vero, la prima cosa che ho fatto iniziare è stata l'albero. E quando i ringraziamenti finali come premio, perché mica me potevano pagare, giustamente ho fatto l'albero, ho lanciato delle mele, mi hanno fatto fare la passerella finale con tutti i grandi artisti dell'epoca e sentivo la gente dire: ma questa chi era? L'albero. Ero l'albero. Perché come Allegra Brigata facciamo il Gino Bramieri Show negli anni 80. E già eravamo il sabato sera e Tiziana era più giovane di noi, ovviamente, non di tanto, non di tanto, tanto. Di abbiamo tanto. Visto questa giovanissima attrice in un piccolo teatro di Roma, in un'accademia allora molto valida, a parte l'Accademia Silvio D'Amico, c'era la scaletta. Sì, da dove sono usciti Giallini, sono usciti Kim Rossi Stewart, sì, cioè, sì. Siete stati in tanti, bravi, siete usciti da lì. Preziosi, oh, siete stati ragazzi. Preziosi, è uscito, sì. E c'era Massimo Cinque che era nostro regista e ci fece conoscere Tiziana. E in quel momento Boncompagni ci chiese di formare un quartetto, perché era nato il trio con Marchesini, Lopez e Solenghi, per distinguerci. Che culo per me, eh? Loro tre ne aveva scelti, erano proprio due uomini e una donna. Dice: no, non per darci una distinzione netta col trio, facciamo che siete quattro. E che culo, esatto. Io sono la quarta. Tiziana Foschi, che era brava, caratterizzava, eccetera. E nacque così, ancora non premiata ditta, perché non ci chiamavamo ancora premiata ditta, ma Fuori insegno traghetti Foschi, che era lunghissimo. Era lunghissimo. E allora, Sabbani diceva i quattro, quando facevamo con Sabbani era i quattro ciufoli traghetti. Abbiamo lottato a lungo per cercare un nome. Sì. È uscito anche i Bucanieri. I Bucanieri, certo, una sera. Non sappiamo più, veramente. Una cosa tristissima. Allora abbiamo pensato la premiata ditta, perché intanto ci premiamo, intanto cominciamo a premiarci, perché non si sa se lo prenderemo mai un giorno un premio. E poi allunghiamo questo nome, sa d'artigianato, c'erano i biscotti, no? Sì, premiata ditta. Di biscotti, esatto, si sapeva insomma di cose fatte da artigiani, e noi, facendo sempre teatro unitamente alla televisione, abbiamo continuato a essere dei buoni artigiani, credo. Sì, no, siamo degli ottimi artigiani, e tuttora le nostre cose sono molto cliccate, sono molto amate, anche perché siamo stati gli unici nipoti preferiti dell'avanspettacolo e del varietà di quegli anni. Insomma, non è un caso che Bramieri ci venne a vedere con Garinei, con Paolo Panelli, Tata Giacobetti del Quartetto Cedra, e ci indicò come dei nipotini preferiti, e da lì in poi cominciò. Poi amavamo fare la scenetta e quindi calarci nei panni dell'attore. Usavamo pochissimo i tormentoni, che peraltro insomma sono adesso un escamotage. Sì, da monologhista. Da un po' troppo usato, se devo dire, dare un consiglio ai giovani. Un po' troppo urlato, un po' troppo usato. Perché poi dopo la gente vi viene a vedere a teatro e non riuscite a mantenere due ore un'attenzione degna, insomma, no? Di quei 5 minuti che invece la televisione concede. Forse non ve ne siete resi conto nel farla, ma la premiata ditta è uno degli esperimenti comici più riusciti di sempre. Quando fra 20 anni si parlerà della storia della televisione e non si potrà non citarla. Un mix perfetto di ironia, mimica e intelligenza. Personalmente ho 24 anni, avete reso la mia infanzia e la mia adolescenza più divertente e dolce. Ora sono ricoverato da un po' di anni in psichiatria. No, scherzo. Grazie a Pino di San Roberto e a Francesca. Non ci avete creduto per un attimo? Sì, no, veramente no. Rattristata. Beh, anche giovane, insomma. Beh, noi veramente più di 1000 puntate in televisione, ma veramente tante, anche molte di più, e sempre con grande intensità, con grande attenzione nei confronti del teatro. Non abbiamo, e poi anche nei confronti della donna comica. Ah, beh, sì, perché sì, noi sì, uscivamo da 10 anni di Banfi Fenech, con tutto rispetto per quei film che ormai sono dei cult, però la donna era l'oggetto, insomma, dei desideri dell'uomo, non poteva dissacrarsi, essere comica, imbruttirsi. E noi invece, fra me e Francesca, abbiamo deciso di scioccare il mercato in qualche modo, e da lì tante comiche hanno fatto la stessa cosa, e sono anche molto brave le comiche di oggi, devo dire. Insomma, molto molto brave. Grande ironia, anche perché una donna è più difficile. Se una donna fa l'ubriaca non è divertente, se una donna, cioè l'uomo fa il gay è divertente, la donna fa il contrario, la stessa cosa, non è divertente. Per cui trovare le caratterizzazioni non è stato facile, e Tiziana con la voce veramente ha fatto qualsiasi cosa. Ora è quasi finito questo blocco, è inutile farla cominciare a fare delle interpretazioni. Che ne vuoi far fare? Un paio di cosette. Aiuto, no? C'ho paura. Non ci avevo paura. Non fare fini blanca. No, sta buona. Blanca. Sta buona. Vedi che parli di naso, si sente. Davvero? Va bene, allora di Ignazio Bibitaro a tra poco. Spacco il microfono, ma lontano, come funziona? Ma lontano. Faccio qui. Ignazio, antecedimi. Antecedimi. Tra pochissimo Voice Anatomy, Tiziana Foschi, tra poco. Voice Anatomy. Eccoci, Voice Anatomy in diretta, 15:33 primi e 13 secondi, la Domenica delle Palme. Al mio fianco Tiziana Foschi, il 50% della premiata ditta è Ehi. Qui, dall'altra parte le nostre grandi esperte di voce con le quali parleremo tra poco, e al telefono un grandissimo esperto di voci, chi c'è? Amico Andrea Perroni, ci sei? Grande. Ciao, buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Ciao Andrea. Ciao. Ti chiamiamo perché intanto so che domani sei al Teatro Nazionale a Milano, un grande debutto, eh? Sì, sì, debutto primo e l'ultimo, nel senso che è una bella secca. faremo questa data spot a Milano, sì, sì, sì. Però poi, bella. Che farai, che farai? Ma guarda, lo spettacolo è un esercizio di stile, perché in realtà è ambientato dentro una festa. E c'è di tutto. Io sono invitato, sì, in questa festa come Andrea Perroni, come comico, per fare una performance alla fine, e in realtà mi imbatto in tutti i personaggi della festa. C'è Califano alla festa, Andrea? No. Com'è? Ve lo fai un attimo. Non faremo imitazioni, cioè nel senso sono tutti personaggi inediti. No, sono tutti personaggi inediti. Poi c'è questo finale, insomma, dedicato al pezzo di Zelig. Califano io lo sto facendo adesso dal paradiso, in realtà. Sì, beh, il grande Franco, ti amava moltissimo, lo sai. Lui per sempre qui in paradiso. Ormai io sto cercando di fare tutto, vanno giù all'inferno, però non ci riesco. Quindi... Senti, siamo a Radio 24, non puoi esimerti di... Io volevo parlare con Cruciani un attimo, che ne pensa di questa trasmissione? Ma cosa dica? Senti Pino, come stai? Io sto bene, mi piace questa stare qui a Radio 24. Ma dai, ma non rompere i coglioni, ma che ti piace? Senti, no, mi piace davvero. Ma dai, ma cosa ti piace? Senti, ma ormai accetti tu, cioè fai tutto, ormai ti sento doppiare tutto, anche pubblicità di prodotti in scatola che vanno nelle TV cinesi, cioè... No, non è così. Cruciani, lo sai che Pino è diventato vegano? Quale vegano? L'ho visto che mangiava il coniglio in una scampagnata con degli amici, che poi tra l'altro era un'immagine orrenda, diciamo. Senti Pino, ma ti chiamano ancora in televisione a lavorare o fai soltanto la radio adesso? Adesso solo io in questo momento, ma anche è stata una scelta personale, vogliamo dire così? Ah, finalmente hanno capito qual è il tuo vero lavoro, cioè, ho sbagliato a chiedere con la televisione, dai. Avevi anche un po' rotti i coglioni, dai. No, dai. Dai. Non è l'orario giusto per dare. No, cosa non è l'orario giusto? Non fate ipocriti, dite le cose che pensate. Che cosa? Allora una parolaccia non si può dire per radio. Ma cosa state dicendo? Mi chiamate Parenzo intanto, che credo che si stia facendo un pediluvio. Me lo chiamate. Andrea, sei straordinario. Questo era soltanto grande. Un piccolo spot qui da noi, soltanto per dire intanto professare la grande stima e affetto nei tuoi confronti. E tu lo sai perfettamente, è una bellissima trasmissione che fai su Radio 2. Grazie. Insieme all'amico Luca Barbarossa. Grazie. Io spero di averti personalmente qui tridimensionalmente, però, intanto in bocca al lupo veramente per questa avventura milanese. Ma questa festa cos'è, di 18 anni alla fine tutti spogli, cos'è? Sei un regalo della festa? E che ne so, dice che alla fine lui deve fare delle performance, non è imita. Spaccato? Ad un giornalista che mi ha fatto una domanda, dice: ma possiamo dire che è un po' la grande bellezza questa? È vero, poi è vero, questa grande bellezza. In realtà mi sono un po' più ispirato alla terrazza di Ettore Scola, quindi... Che raffinatezza, ragazzi! Senza nulla togliere a Sorrentino. Anche perché, insomma, faccio una discreta imitazione di Tony Servillo. Quindi ogni tanto intervengo ogni tanto nella radio. Fino, io sai che sono felicissimo di essere intervenuto, perché... Ma ti ho chiamato anche l'altra sera, perché stavo vedendo una cosa tua di qualche anno fa, su Comedy Central, era straordinaria, i cantanti. Addio, lì veramente l'ho chiamata a mezzanotte, ho detto: Andrea, scusa, non so che stai a fare, smetti per un attimo, tanto non stai a fare niente adesso. No, dai. Sono felice di poter dire che tu sei stato una delle prime persone, se non il primo, a vedermi nascere artisticamente e a sponsorizzarmi, quindi sei bravo. Lo dico senza ruffianeria. Sei soprattutto un gran bravo ragazzo. Vabbè, alle cade dai. No, non ce n'ha bisogno. Traffico, ci sentiamo, ciao. Traffico. Ciao Andrea, bocca al lupo per domani a Milano. Ciao Andrea. Ciao Andreuccio. No, che veramente è una cara persona, è vero, io mi sono innamorato subito di lui, grande, perché Andrea è sempre stato carino, umile e disponibile, questo è insomma il segreto della normalità, poi, che è quella che fa il successo. E ha sempre studiato, lavorato. Senti un po' i suoi personaggi curati. Prima di leggere una poesia che tu devi leggere. E io devo leggere una poesia perché voglio fare... Ma prima fammi voglio Ignazio Bibidaro. Ignazio Bibidaro. Sì. Allora, che ti faccio fare, Ignazio? Non lo so, Vuoi misurare una camicia? Sì. Perché tu lo sai, lo sanno tutti... che lavori al cinema moderno. Sì, io faccio... Che fai? Che fai? Bidaro mio? Bidaro, no? Che fai? Allora devi mettere una camicia che ti stia bene, che non ti tiri, che quando ti chiedono il gelato, come fai? Allunga il braccio, ecco. Non lo possono vedere, allunga. Non lo fa niente, tu allungalo, Bidaro! Ecco, io non riuscivo a aprire bocca con lei quando avevamo qualche minuto in più da registrare con Finché c'è ditta c'è speranza. Era Rocco Rocco con Roberto Ciufoli, sì. E contestualizzato oppure c'è Bibitaro, vai, oppure faccio tua quando figlia con gli ormoni. Ci dicevano no, avete girato pochi minuti, ce ne mancano altri 5-6, vai con Bibitaro. Qualsiasi cosa contestualizzato, dove stavamo. O ero tua figlia che facevi fare danza, che ero molto, avevo gli ormoni. Sì, quella c'è, la mia unica nipote. Sì, esatto. Che ha fatto una cura ormonale, gli sono cresciuti i baffi. Eppure le tette, porterà la sesta, c'ha 6 anni. Come sei? Sì, è una cura ormonale speciale. Ma questa era Donna Teresa, e poi com'era una ricetta di Donna Teresa, Tiziana? Ma sai che ultimamente ho messo dentro anche Antonio Pisu, perché sto girando anche con uno spettacolo con lui e Pigi, e gli faccio fare un po' la spalla di questa calabrese che si va a confessare. Allora lui, pretino giovane, perché ovviamente ha 30 anni, e mi chiede, ma che cosa deve confessare? Io ho conosciuto ultimamente una persona di tipo maschio, e le piace? Mi piace, ma ha chiesto la prova d'amore, solo che non lo so, perché Barbara D'Urso ultimamente dice, ho letto su Confidenze, che farà amore invecchia, e se lo dice Barbara D'Urso io ma la posso arrischiare, hai visto lei come sta quando la riprendono qua, la luce tutta da sotto, lei il collo alzato, sembra l'arcangelo Gabriele, Insomma faccio tutta una storia sulla prova d'amore, e quindi lui poverino, ho massacrato anche lui, capito? Devi leggere botta, perché insomma leggere. Ciufoli non è facile. Cerco di insegnargli il calabrese, ma c'ha difficoltà. Difficile. Con l'aspirato, perché i calabresi catanzaresi aspirano molto. Poi tutta quest'aria. Che c'è? Dove va? Allora i calabresi sono così, aspirano molta aria e poi esce in qualche modo. Ma non sei calabrese? No, non sono calabrese. Ma avete fatto uscire sto calabrese, perché ho fatto una vacanza a 12 anni in Calabria con il genitore. A Badolato Superiore, che si distingue da quello inferiore perché è mancante il mare. Certo, quello superiore. Insomma, tu vuoi leggere questa poesia? Non so che sì, poi perché... anche un sottofondo romantico. Sì, che... romantico. Dio mo un po' sta voce, quelle mi guardano. Sì, sono testimoni oculari. Oculatevi. Eleonora. E allora partiamo con una musica dolce. Dolce, sì, dolce, dolce. Poi dolce. Vi dico l'autore, vediamo. Va, se la riconoscete l'autore. Prego. Nella camera buia ascolto il tuo respiro. È bello spogliarsi in un istante, infilarsi nel letto ed abbracciarti forte. Quel tuo mugolio profondo ha un suono diverso stanotte. Mi stringo di più, mi immergo nel tuo profumo come fosse la prima volta. La tua pelle mi sembra più liscia e morbida stanotte, e i tuoi muscoli più vigorosi, tanto vigorosi. Accendi la luce, ti siedi sul letto e con un fare insolito mi fissi. Sei proprio un gran figo. Ma chi sei? Ah, non è la 209? Cazzo, scusi, ho sbagliato camera! Chi è? Roberto Ciufoli. No, ha scritto Ciufoli. Ma che non sta bene. Era carina. Loro carina. Ridono. Carina, un po' come le poesie. Divertente. Quella ti amo, se non sei... Cioè, sì. Sono molto carine. Questo è l'autore vivente, poi, Roberto. È vivente. Ti amo, ce l'ho. Senti, arrivano dei complimenti. Dicono, che cosa stai facendo in questo momento? Che fai adesso? Dice, allora, Master. Ecco, sto un po' in giro con questo Delirio a Tre con Antonio Pisu e Pigi. Continuo a portare per qualche data ancora il monologo Cibami di Cinzia Villari e Stefano Benni, sempre con Pigi, cantautore. E poi andrò a Bologna per un mese per girare un film. No! A Vinuccio non t'avevo detto, no, eh! No, non me l'avevi detto. T'ho sderagliato! Chi lo fai? Scorsese, soli... Martin, no, Joe Scorsese, questo è come la storiella divertente, fai un film, sì, con De Niro, Robert, no, Joe De Niro, cugino, regia Scorsese, Martin, non Albert, e coinsegno Pino, sì. Tipo, così, tipo no, sì. No. Però c'è Raffaele Piso. Ah, perché l'ha scritto Raffaele. Antonio Piso, il figlio, Raffaele, 91. L'anno scorso grande. Abbiamo festeggiato a Bologna, al Duse, i suoi 90 anni. Ha scoperto questo figlio dopo 50 anni, del quale non sapeva l'esistenza. Cioè? Questo ragazzo, questo signore, suo uomo, cioè 50 anni, ha bussato alla sua porta un anno fa e gli ha detto: storia. Io sono tuo figlio. La mamma è, diciamo, gli ultimi giorni della sua storia di vita, gli ultimi giorni in cui gli ha confidato questo segreto, e lui è andato ad approfondire. È cresciuto a Bologna, si chiama Paolo Rossi, fatalite, guarda. No. E ha trovato il modo per organizzare questo film. L'ha scritto Antonio, ci sarà Claudia Cardinale, che sarà la moglie di Raffaele, ci sarà Ivano Marescotti e Mimì Salerno, e adesso c'è anche un altro personaggio, ma ancora non ha completamente detto sì, quindi non si può dire. Conto, mica mi chiama per doppio trailer, mi chiamerà, zitto. Capito? Sì, è successo tutto così in fretta, Pino. Ma che bello, regia di Piso Junior. Piso Junior, sì, la sua prima regia. Beh, bella avventura. Mm-hmm. Quante saranno? 4 settimane? 5. Ah, pure. Abbiamo raschiato un po' di produzione in più. Ormai che distribuzione, qualcosa c'è nell'aria? Non so. Vabbè, ma l'importante è farlo. Questa sì. cosa è bellissima. Sì. Bologna, 5 settimane lassù. Sì, non so dove lasciare mia figlia. Se te la posso parcheggiare, visto ma il già. Certo, se mangiano 4, se mangiano 5. Non è il padre sta in Arabia, fa un film con gli arabi. Quindi, foraggia. Sta cercando genitori adottivi. Metti un annuncio su un giornale e via così. Quanto abbiamo ancora? Un po' è finito, però rimani ancora questo blocco, mi siamo insieme alle nostre amiche della voce, perché so che ti interessa, sì, moltissimo, molto. Anche a te. Allora, Tiziana resta qui, le nostre amiche sono già qui, io non mi sono mosso qui dalle 14:30, voi siete dall'altra parte, restate con noi, voi sanatomi, a tra poco. Voice Anatomy. Puntuali 15:46 minuti e 23 secondi Voice Anatomy. Ancora Tiziana Foschi resterà al nostro fianco, anche sì. perché è veramente un momento che io ho richiesto ancora una volta di approfondire con Eleonora Bruni, questa volta anche con l'aiuto di Erika Biavati. Allora, vi ricordo un attimo Eleonora Bruni, che è una cantante, insegnante di canto, tecnica vocale, esperta in vocologia artistica, didatta per la vocalità estrema. Molti premi vinti, eccetera, la voce del lato orchestra, insomma, è una storia veramente lunga. È fondatrice e docente del corso di specializzazione per insegnanti di canto Voice to Teach dell'anno accademico, eccetera, eccetera. Insomma, alta formazione in vocologia. Mentre Erika Biavati, anche lei è vocologa artistica, premio vocologia artistica per la didattica 2010, insegnante di canto, unica docente italiana specializzata nell'insegnamento del registro di fischio. Beh, sì. Bellissimo, che non è, non è questo, no, qua. Perché insomma Alenio Morricone, può essere l'unica anche, no, ma guarda, anche lì è una tecnica pazzesca, perché uno degli Alessandroni credo che era, ma se impara il muretto, no, ma il fischio vero, quello musicale, quello è difficilissimo, ma un anche quello c'è, cioè quello con le dita in bocca, cioè, ci sono una serie di tecniche, però tu sei registro di fischio, quale? Laringeo, fatto con la gola, con le corde vocali. Il fischio, puoi fare un piccolo esempio? Sì, attenzione. Certo. Oddio, non ha mosso nulla. No, esatto. Da dove usciva quel suono? No, non si può dire. Non è registrato, è in diretta. Madonna, ricercatrice, sperimentatrice vocale. Abbiamo fatto una bellissima trasmissione su Demetrio Stratos, anche lì con il grande Diego Cossu, che io spero di riavere prestissimo, il maestro. Relatrice in numerosi convegni dedicati alla voce artistica. Ovviamente fai parte del team dei docenti del corso di alta formazione universitaria in vocologia artistica, insomma. Come Eleonora, fai master teacher, voice to teach, insomma. Sì, avete sì. un sito, a parte interessantissimo, lo dico a voce alta, noi verremo. Io verrò. Noi ci saremo. Noi ci sarà saremo. Una gioia. No, anche sarà perché spesso viviamo di rendita, siamo un po' pigri, no? E invece assolutamente. Poi l'età si fa sentire. Ma quindi... sì, no, ma soprattutto la cosa diciamo pratica, che... io cose teoriche non le amo tanto, perché si può teorizzare, esatto, sulla recitazione e sulla voce per millenni. Però bisogna provarla. Non è una cosa facile, uno veramente. E si credo siede, bisogna fare tanti esercizi. Stai male, te fai il cortisone, te fai due inalazioni, eccetera. Non è così. Non è così. Ma non è così. Diciamo che l'atteggiamento virtuoso sarebbe quello di non arrivare possibilmente ad avere il problema vocale, quantomeno non parlo della salute, insomma, parlo di quello che è l'uso reale della voce in ambito artistico. Quindi usarla bene, quindi sì, utilizzare tutte quelle possibilità che abbiamo per fare un training intelligente, qualcosa che ci tenga la voce elastica. Da che età si può cominciare a lavorare sulla voce? Si può cominciare veramente in età scolare? Si può cominciare anche assolutamente da bambini ed è assolutamente virtuoso farlo insegnando ai bambini a non urlare, ad avere rispetto del proprio strumento vocale, che al di là dell'utilizzo cantato o recitato è comunque uno strumento espressivo che ci accompagna per tutta la vita, insomma. E è chiaro che se poi invece parliamo di uso artistico le cose si fanno molto più complicate, per cui per il bambino è necessario fare un lavoro specifico che tenga conto delle sue particolarità, di un organo che non è formato. Bisogna avere grande rispetto di quella fase intermedia che è la muta vocale. Nei maschi questa cosa è molto evidente, no? Sì. Quando improvvisamente... Ciao papà, e poi l'improvviso, ciao papà. Esatto, no, perché esci da questo corpo, quello è il momento. Però in realtà la muta l'hanno anche le femminucce, meno evidente, ma insomma c'è un periodo molto critico. E anche quello è una questione ormonale, immagino. Assolutamente, cioè, sì. Se un uomo manca quella spinta ormonale... Non c'è quel cambiamento vocale? Il cambiamento, no, Erika? C'è in tutti, nel senso che è proprio un passaggio obbligato della fase di crescita. Poi ci sono delle differenze legate anche, ad esempio, al clima, all'alimentazione, anche alla zona geografica in cui si vive. Certo. Dicono che al nord lo sviluppo e quindi anche la muta vocale arriva prima, anche se... Per l'aria dici forse lo smog, no, non è per quello, è l'improvviso un fumatore. Questo dicono gli studi senza approfondire esattamente i motivi, però ci sono delle differenze. E io lo sento nelle donne, soprattutto del nord, che hanno una voce molto più profonda, cioè più scendi e più forse c'è un modo diverso di mettere la voce e utilizzare la voce. Ma e anche Napoli, il dialetto credo, certo, sia... Quello riguarda molto l'aspetto timbrico. Che ha una musicalità il dialetto. Assolutamente, quindi... sì. Napoli è musicale per quel modo e si parlano da un palazzo all'altro, per cui la voce è portata direttamente. Automatico, esatto, proprio, sì, sì. È bello uno studio regionale, non è male. Poi tu, Erika, canti anche, ovviamente, leggo che fai parte di una... Sei solista nella tribute band di Aretha Franklin, una cosetta, Soul sì, Sisters. Sì, mi piace il genere, sì, sì, soul. Sono cantautrice, poi canto soul, blues da tanto tempo. E... Avete inciso dei CD qualcosa? Sì, ho inciso un CD mio. Tu devi portarmi una cosa. Hai ragione, l'ho anche detto lo prendo, poi avevo per sonno, radio, me la sai, sono no? dimenticata. Non è male che tu ti dimentichi per radio di portare... No, ma tanto tornerete perché questo percorso... Il corso con voi è veramente interessante, cioè io conosco la voce per carità, ma mi avete aperto un mondo, questo sovraglottide, sottoglottide, eccetera. Quando andiamo in pubblicità 55, ancora abbiamo 3 minuti e mezzo, poi abbiamo ovviamente altri blocchi. Che differenza? Mi racconti l'anatomia della voce un attimo? L'anatomia proprio, voice anatomy, proprio semplificata. Le corde vocali noi possiamo sentire già, per esempio, ponendo le dita e con l'atto della deglutizione sentiamo, senti, che la laringe sale e scende qui più o meno alla metà, grosso modo è la zona in cui ci sono le corde vocali dietro il pomo d'Adamo, per i maschi più facile da individuare. Le corde vocali si allungano, in questo caso la nota diventa più acuta, si riaccorciano e la nota diventa più grave, quindi in questo momento sto allungando, strecciando al massimo. Questo ovviamente avviene attraverso l'azione di muscolini complicati da citare, cricotiroideo, mentre il tiro aritenoideo è quello che riaccorcia, ma insomma, ma già dirlo è difficile, già non dirlo è tanto difficilissimo. Bello, sciogli lì quando hai imparato, sì, sei a posto, ma è fantastico. e però in realtà poi ci sono tutta un'altra serie di strutture, tra cui quelle che citavamo anche nel nostro precedente incontro, aritenoidi e false corde, che sono queste strutture più lasse, più grossolane, se così le vogliamo definire, che producono tutti gli effetti di sporcatura. In realtà così interessanti a scopo espressivo. Però insomma, devi saperlo utilizzare, altrimenti perdi la voce. Se esatto. fai questo utilizzando male le false corde vocali, eccetera, rischi comunque di perdere la voce, perché vibrano male. Qualche puntata fa c'era qui con voi Alessio Boni, sì, grande che Alessio. Per il suo visitatore ha fatto questo lavoro proprio con me. Abbiamo imparato ad utilizzare queste strutture perché lui potesse avere questo ruolo con maggiore sicurezza, e devo dire che insomma con grande gioia di entrambi, dopo 105 repliche sta molto bene, quindi è bellissimo. Anche perché se lo fai senza cognizione, dopo un po' tossisci. Beh, sì, non riesci più, va in protezione. Uh-huh. Tu non devi stringere mai le corde vocali, si dice sempre quelle che tutti vanno questa cosa qui è terrificante. Esatto. Ma vanno veramente accarezzate con uno sbadiglio, con una deglutizione. Sì. Diciamo che l'aria passa e noi possiamo immaginare le due corde vocali che si sbaciucchiano, per così dire, è molto e sensuale, quindi insomma. In questo atto molto dolce si produce il suono. Fammi wow. un pezzo di aretra, un attimo, un pezzettino, mm-hmm. a cappella. Mm-hmm. Allora, un pezzo di aretra, sì. People walk around every day, play the game, they can score. And I ain't gonna be the loser, one day we gonna do it, you glowing. Think about what's right to me. Niente, sei partita con un country e sei andata sul sole. All'improvviso sembravi Neil Young in un crossroads in mezzo alla strada e poi sei diventata soul. Che bello, ma non è facile no. affatto. No, ci ho fatto una gran fatica nel tempo. Tu di proprio. Dove sei? Eri? Tu Bologna? Bologna. Sì. Posso fare da babysitter quando viene esatto, a Bologna? Se vuoi. Ho bisogno a Roma. Vabbè, allora no. ci pensa lei. Te la metterà a controllare i suoi animali. Invece. Tu pensa tua figlia farà mamma. Mamma, oh mamma. Ti costa un po' di più, ma santa miseria, avrai una figlia. Signori, restate qui che parleremo ancora con le nostre due amiche in maniera molto leggera, ma molto profonda di... Proprio questo è Voice Anatomy, questo è veramente il titolo della trasmissione, voi lo riassumete in tutto e per tutto. Arrivano tantissimi messaggi, un po' pomeriggio a te Pino, agli ospiti, adoro il vostro mondo, sarebbe piaciuto anche a me poterlo fare, però soffro di balbuzie, ti immagini in disastro in sala di doppiaggio? Non è detto, grandi attori sono balbuzienti come Vinicio Marchioni, come Filippo Timi, però riescono in qualche modo, parleremo anche di questo. Alessandro mi fa cenno di salutare, ma torniamo fra pochissimo, fra quanto torniamo Alessandro? Chi può dirlo? 10 minuti, questo è il blocco quello più lungo. Fra 10 minuti torniamo. Ha detto chi può dirlo? Che può dirlo? Me lo dice, non mi fa muovere. Allora, digli. State assolutamente sintonizzati, eh? Ecco. Vi controllo. Proseguiamo. A tra poco, voi sanate. Recupera. Ha vinto. Straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi. Gentile, è finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Voice Anatomy. Eccoci, Voice Anatomy, la pausa più lunga, ma l'attesa si fa più interessante, sempre qui vicino a me. Tiziana Foschi, molto infatuata dalle questo sì. tutorial delle nostre amiche Leonora ed Erika. Abbiamo trovato una cosa, tu hai visto che non hai portato il CD, Alessandro si è subito mosso in internet questa, eccolo sì. qui abbiamo la sedia di là, esatto, dove utilizzi, Fortis. Eccolo lo strillo, il fischio laringeo, il fischio, eccolo. Quasi lirico, ma non lirico. Sì, molto più piccolo in realtà. Che bella canzone. Stavo inesistenti e una piaga sulla bocca. Molto lounge. Oh yeah. Ehi. Andiamo verso il vespro. Sulla sedia di lilla. Ed ecco l'urlo. Non c'è più. No, c'è dopo, alla fine. Lasciami sottofondo. Bella, bellissima canzone di Alberto Fortis, di questo ragazzo. Sì. E si sente qui effettivamente come la voce sia uno strumento, proprio una corda, una pizzicata. È uno strumento affiato. Ha tante sfaccettature, può essere veramente usato in tanti modi. Io adesso avevo scelto questa canzone perché mi piaceva il testo, perché sono una depressona dentro. E poi ho detto, vabbè, facciamone anche uno strumento, no? Per utilizzare questa tecnica particolare, per cui ho utilizzato poi il fischio come fosse uno strumento, perché comunque fare queste note così acute non è sempre gradevolissimo da sentire. Mm-hmm. E a meno che uno non ne faccia un virtuosismo caratteristico come fa Mariah Carey nei suoi brani, ecco, allora a meno che uno non faccia così, io preferisco utilizzarlo come fosse uno strumento, quindi certo, con molto effetto, con una gestione anche... Perché se vuoi puoi utilizzare anche l'altro, insomma, la voce alta, sì, la voce acuta, sì, soprano... Con questa tecnica si possono raggiungere le note più alte dell'estensione, quindi proprio arrivare fino alla fine del pianoforte, per intenderci, sì, e anche oltre, per cui... C'è la vicina di casa, oltre... c'è sì, l'altra porta, insomma. Anche il cane del vicino, perché a un certo punto ti senti... Sono ultrasuoni, sì. Si spaccano, sì. Per cui ti sei specializzata in quello, anche se sei ovviamente... Sì. Pronta ad essere un ottimo tutor per io quanto riguarda la voce. Io sono un'insegnante di canto che ha iniziato cantando molto male da ragazzina, per cui anch'io ho avuto problemi alla voce e lì ho conosciuto il dottor Fussi che mi ha salvato e un po' alla volta è diventata un po' una fissa la cosa degli acuti, perché avevo paura a cantare in alto, quindi ho detto no, ho paura, non canto, e quindi la mia unica voce sulle note alte era tipo questa vocina qui. Che è leggera. Sì, e parlavo così con il porcellino d'India, il gatto, il cane, avevo un sacco di problemi. È lì che c'è stati i problemi, vedi? Lì il dottore gli ha aiutato, non sappiamo, il dottore è uno psichiatra, è non un poniatra, però diciamo... No. Sì, te l'hanno trasformato, era un grasso psichiatra, diciamo la verità. Così. Ti hanno detto che era un vocologo. Esatto, dopo io facevo questa vocina qui. Andiamo bene. E quindi tutti gli altri cantavano e io imitavo quelli bravi, però... Era un problema, era soprattutto a 20 anni. Sì, poi facendo un corso, perché studiavo come una matta, ero un po' compulsiva, studiare. Compulsiva? Dopo, sì, un po' così. Ragazzi, sono sempre gli infermieri fuori. Sì, anche adesso metto le cose in ordine di colore, faccio queste cose. Vabbè, anch'io lascia stare. Sono della Vergine, mi hanno detto sei della Vergine, anch'io. Sei tutto preciso. Che stanzetta. Mamma mia. E beh, insomma, quindi alla fine facevo questa cosa, mi è stato detto fai il fischio. E quindi niente. Ho pensato che dovevo imparare a insegnarlo a tutti, perché mi sembrava giusto che tutti potessero utilizzare il proprio strumento, la voce, e visto che c'ero riuscita io, che non ero partita per niente bene, appunto procurandomi dei noduli alle corde vocali, abbiamo cominciato lo stesso percorso, ecco. Non faccio il fischio. Magari lo fai, sì, lo fai e non lo sai. Esatto, magari sì, mentre dormo, ma non lo so. Ma verrò ad imparare quanto prima, soprattutto Leonora è a Roma, per cui sicuramente avrà a che fare. Invece tu hai avuto un'infanzia più tranquilla, Leonora, vero? Ma, come è cominciato il tuo percorso da tutor? Tranquilla, io ero molto irrequieta, ma il mio percorso è iniziato perché la mia passione grande, assolutamente insopprimibile, era quella di cantare. E poi però molto rapidamente mi sono resa conto che da una parte c'era questa voglia di cantare, appunto, di sperimentare, di toccare territori particolari della vocalità, e però dall'altra avevo questa grande predisposizione al prendermi cura delle voci. E quindi ormai sono veramente tantissimi anni. La cosa fra voi due è incredibile, siete la risposta di un esorcismo, perché lei va su voci assolutamente... ultrasoniche, tu invece vai sotto in quella maniera terrificante, però siete tutte e due in grado di affrontarle in tutte, sì, le direzioni. Assolutamente, ovviamente. Sì, e questo è stato un incontro meraviglioso, perché a parte che nonostante la distanza, insomma, noi lavoriamo moltissimo insieme. Voi siete conosciute in corsia, no? Immagino. Sì. Ma no, perché c'è quest'altra no, cosa. No, sul monte, no? Portavano le pecore con un fischio. Guarda che ti tiro lo strumento, Una strillava, l'altra. E chi, Giallina? A Vocologia ci siamo conosciute. Vocologia, Pino, guardami. Ah, esiste, sta buona. È un corso post laurea che c'è. È surreale sto pomeriggio con voi, lo sai. No, ma la cosa bella, noi abbiamo creato questo gruppo. Questo gruppo di lavoro, insomma, in qualche modo che attira moltissima gente che vuole imparare, e l'abbiamo denominato Ali e Abissi. Ali, perché appunto lei tocca le ali del massimo dell'altezza tonale, e io invece la parte quella più che non si direbbe rozza. Vero a vederci, però a vederci tutti pensano che io faccio il fischio e che lei faccia invece la parte sì, più infernale, piercing, tatuaggi, uno dice ah chissà che roba, invece lei lei Nightwish, gothic rock, esatto, e invece no lei. E invece io bionda, anche un po' attempata, diciamolo. No, diciamo no, no? Io la chiamo la vecchia Bruni, mi chiama la vecchia Bruni davanti a tutti, lei perché ce l'ha con la modella, la Bruni, lei dice sì, io sei un po' più grande della Bruni. Ed è bene, per quello perché, sì, vengo da te a lezione, non so con che voce parlerò alla fine, perché con tutte le voci possibili. Quello che mi piacerà, guarda, da morire, mi dicono qui altre cose sul doppiaggio. E il sibilo finale azzardo lo fa con le finte corde, che cos'è? No, perché non parlare degli speaker pubblicitari, faremo anche quello. Avete sentito l'attrice della Smart, ma si fa pubblicità nello spot appena passato, mi sembra di vedere la Zellweger ascoltando lei per soli 10 secondi, una magia. Secondo voi perché noi sardi abbiamo questo spiacevole accento? Non è spiacevole, è un accento regionale, importante, difficile da togliere, questo sì, perché devo dire che il dialetto sardo... Come Valeria Marini quando gli chiedono di dove sei, di Milano! Sì, no, è difficile veramente. Willy dei Simpson. Sì, è veramente difficile. Ma per cui esiste una interazione, un'integrazione importantissima, una relazione tra voce, psiche e corpo, assoluta. Assoluta, sì. Ne parlavo anche con l'ipnotista l'altra settimana, che riesce a risolvere anche un problema di voce legata magari a qualche trauma infantile. Sì, la voce è una parte del corpo, per cui come tutto il resto del corpo somatizza ciò che succede, certo, diciamo, nella mente, quello che dobbiamo affrontare. Per cui mi è capitato alcuni anni fa di iniziare un lavoro insieme a una psicoterapeuta che fa un tipo di psicoterapia biosistemica, si chiama Elisa Ghetti, ed è un approccio molto fisico, per cui lavorando sul corpo arriva a toccare poi l'emozione, tutto il lato emotivo. Specifica, lavorando sul corpo serenamente, cioè, sì, serenamente, no? Ognuno staccato dall'altro corpo, insomma. Sì, sì, ognuno col proprio corpo, ecco, no, sopra, su, no, esatto, particella pronominale, no, ognuno ha il proprio uovo prosemico, stanno tutti al proprio posto, sta esatto, sul tuo, esatto. E visto che la sua terapia appunto molto corporea, ma ecco, sì, se no si chiamerebbe scambismo, è diverso, non è quello. Ma c'è pure quello, ma sì, ma non è questa la trasmissione, però non fischi, buona. Gli esercizi che lei proponeva erano molto fisici e influivano, diciamo, sulla mente, e lo stesso succedeva nel mio ambito, cioè anche i miei esercizi per la voce riguardano molto anche il corpo, e in questo modo modificavamo la voce. Quindi abbiamo unito le due cose, abbiamo visto con un gruppo di allievi come quello che succedeva sulla voce lavorando con una psicoterapia con questo tipo di approccio, e anche con degli esercizi mirati alla voce ma che coinvolgessero principalmente il corpo. Io vorrei proprio che la gente, anche tramite questa trasmissione, capisse quanto è importante la voce, e ripeto, non la bella voce, la voce come espressione, la voce come comunicazione, l'elemento comunicazione più importante che c'è al mondo. E ripeto, non la bella voce, dice ah parli bene, la voce bassa, quello, ma abbiamo già finito pure questo blocco? Oh, Madonna, finite però tutto, comprate qualche altra cosa. Ed è una talk radio, pensa in un'altra radio che ti parla un minuto e mezzo di una cosa del genere, poi pubblicità e poi musica. Vabbè, ma staremo ancora insieme ancora una mezz'ora, per cui restate con noi, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Noi parliamo anche durante la pubblicità, perché è interessantissimo. Ci chiedevamo, per esempio, ho un nodo in gola. Oppure lo stomaco chiuso, no? Quando succede qualcosa. Sono tutte espressioni che denotano la fisicità e la vocalità. Che cosa ci raccontate a proposito di questo? Ma queste sono espressioni che ci dicono quanto in realtà sia forte la sensibilità anche nella vita di tutti i giorni. Insomma, nella comunicazione normale, se ci viene da piangere, abbiamo immediatamente la gola che si stringe, diciamo ho un nodo in gola. La laringe, prima ancora di avere una funzione vibrante dal punto di vista proprio biologico, ha una funzione sfinterica, è una cosa che serve a chiudere, per cui quella funzione tende a prevalere su quella vibrante e comunicativa. Siamo male, siamo tesi, il respiro si fa alto, per cui riuscire a controllare tutto questo, non dico di non soffrire, ma riuscire a controllarlo, sì, significa anche gestire le emozioni in un, esatto, certo modo, e evitare anche la depressione stessa se riesci a controllarti. Sì, già esserne consapevoli. Esatto. Se una persona si accorge di quello che succede in gola, è un po' come se avesse una finestra su quello che gli succede dentro in generale, per cui è importante anche migliorare la propria accezione, cioè la percezione di sé, di quello che succede, in particolare nella gola, proprio perché anche la zona in cui si trova è emblematica, per cui si trova tra la mente e il corpo, quindi tra quello che vogliamo fare, quello che in realtà facciamo o viceversa, e anche tra il dentro e il fuori, quindi sintomatizza anche tutti i problemi che abbiamo nella comunicazione, in come dicono, accettiamo... gli occhi sono lo specchio dell'anima, ma anche la voce diventa lo specchio. Certo. La voce ti tradisce, si fa fatica, sì, esatto, a non far tremare la voce se tremi dentro. Quando esatto, una voce suona finta ci dice delle cose importanti, no? È fondamentale, è fondamentale. Io vorrei che la gente si affezionasse allo studio della voce, che non è soltanto per professionisti, ma è per vivere. Per vivere, ognuno di noi sì, non accetta mai la propria voce, dice ah non è brutta, c'è una brutta voce, eccetera. Non è così, perché non sei abituata, non hai la propria accezione della tua voce, allora bisognerebbe fare degli esercizi, bisogna per questo cominciare da ragazzi a scuola, cominciare a registrarsi, a sentirsi, a gestirsi, perché è fondamentale, è comunicazione, sì, comunicazione vera, sì, vera, sì, assoluta, cioè può presentarti un uomo davanti a te, Tiziana, bello come il sole, sì, allora stasera facciamo l'amore. Cuscino in faccia. No, vabbè, ma e faccio quello che devo fare l'uomo, ti prego. Ma non essere così, ma stiamo parlando scientificamente, so. Tu mi basta uno che respira. Uno bello che fai, oh, mandi via, ciao, c'è da paperino. No. Dai. No, ma io sono d'accordo comunque. Sarà zitto, mica deve parlare per forza. Me sto circondato, io dovrei essere l'uomo qui in mezzo che dice la guerra è guerra, ogni buco è una trincea, e invece questi, chi sta facendo questo discorso sono le tre donne intorno a me, è cambiato l'universo. Sì, l'universo. Un bel po', per questo troppo. Noi abbiamo dei problemi non pochi che dobbiamo risolvere, non soltanto con la propria accezione della voce, ma anche con qualcos'altro, pillole incluse. Bene, però a parte questo, c'è anche un problema di patologia della voce. So che anche in oncologia, insomma, i laringettomizzati hanno dei problemi non indifferenti. Lì si può fare qualcosa in più, ma a parte ovviamente o il microfono o queste situazioni, si può migliorare? Guarda, proprio la settimana scorsa una giovane studentessa si è laureata in logopedia a Padova ed ha aiutato un gruppo di pazienti laringectomizzati che quindi hanno avuto l'asportazione proprio delle corde vocali vere, certo, quindi non hanno più la voce propriamente intesa. Con questo lavoro sulla vocalità estrema li ha aiutati ad avere una miglior resa vocale con quelle che sono le strutture residue. È chiaro che sarà una voce più sporca, sarà una voce più graffiata, certo, più grave di quella che loro erano abituati a sentire e ad accettare prima, ma è stato un lavoro straordinario che li ha accompagnati verso questa nuova voce. E sempre su questi toni, ovviamente. E chiaramente per forza gravi, perché proprio in questo caso il lavoro è servito ad aiutare ad avere un miglior utilizzo delle false corde, laddove rimangono in questi casi, nel nostro caso neanche ce ne erano rimaste. Ma loro fanno molta fatica a aritenoidi parlare? E epiglottide. Sai perché fanno molta fatica? Perché inizialmente cercano la vecchia voce, certo, e hanno l'idea della loro voce. E poi bisogna precedente. Accettarsi. Bisogna condurli verso una nuova voce. Che sia lo specchio della loro nuova condizione. Queste sono le false corde vocali. E il falsetto? Che differenza c'è a questo punto? Il falsetto è questo. Qui è un discorso. A volte si associano, sì, le due cose, false, sì, corde con falsetto. Esatto. In realtà il falsetto nasce in ambito teatrale perché le donne non potevano recitare, quindi gli uomini falsavano la loro identità sessuale imitando la voce delle donne. Sì. Certo. Per cui appunto sono gli acuti, eccetera. Però poi la parola è stata presa dall'America, che ha deciso di dare un nuovo significato alla parola falsetto, certo, ed è diventata identità falsata dalla presenza dell'aria. Per cui il falsetto per un americano è la voce con l'aria, non per forza acuta, anche per ora è falsetto. Quindi al giorno d'oggi a volte c'è confusione. Uno magari legge qualcosa con scritto falsetto e non si capisce bene a quale connotazione si fa riferimento, ecco. Mentre nella tradizione italiana l'idea di falsetto era più associato a quella che è la cosiddetta voce di testa o meccanismo 2, quindi... Meno male che ha bottiglie di plastica. Plastica dove non c'è però l'aria. E quindi c'è questo problema terminologico. Non è il falsetto questo, esatto. Non si sa c'è molta confusione terminologica, perché il canto esiste da sempre e una volta lo si studiava da un punto di vista più propriocettivo, quindi io sento la voce nel petto, la chiamo voce di petto, io sento vibrare in testa. Poi man mano che si è andato avanti con gli studi, anche l'approccio alla didattica del canto è diventato un po' più scientifico, per cui si è cominciato a far riferimento a ciò che succede davvero in gola. Certo. E quindi da lì sono aumentati i termini che si sono sommati agli altri, a volte si tratta di sinonimi, a volte no, per cui c'è davvero tanta confusione. Si può semplificare insegnando tutto questo, ovviamente. Assolutamente, cioè, sì. Dare la propria coscienza di uno come mette la voce, però ecco, la voce in maschera, si dice ecco questa è la voce in maschera, guarda, eccetera. Portata. Oramai ci sono delle diatribe su tutto, anche sulla maschera, esiste, non esiste. Diciamo che la cosa fondamentale è che l'insegnante sappia esattamente quello che fa e dove deve condurre andare. In qualche modo. Poi è chiaro che la didattica si basa su tutta un'altra serie di cose, c'è anche sulla tutta la nostra tradizione di ascolto, metafore, induzioni, esempi. E lì la differenza tra un bravo professore insegnante e invece uno no. Ma infatti ci soffermiamo spesso su questo aspetto quando ci occupiamo di didattica per insegnanti, e ne parliamo spesso molto di questa cosa dei termini, perché davvero è una gran confusione. Io credo che dipenda molto dalla tua sensibilità di capire chi hai di fronte e capire come indirizzare. Se tu hai me di fronte, devi trovare un modo per indirizzarmi. Hai Tiziana, ce n'è un'altra ancora. Hai un bambino e chiaramente userai dei termini ancora. Diversi. E soprattutto l'inibizione, la disibizione della persona e quant'altro. C'è la paura. Io quando ho cominciato l'altro anno tale quale show avevo paura perché non ho mai cantato. Sì, una canzone con la premiata è successo, ma mai interpretare un cantante addirittura. Poi però ti liberi in qualche modo di lavorare molto su te stesso, chi lo direbbe, no? Che uno come me magari non ce la faccia come quella cosa, no? Infatti mia madre quando sono nato ha guardato... E chi hai imitato tu? Io, nessuno, sempre Pino il Segno, ero Pino il Segno sempre, era Louis Armstrong che imitava Pino il Segno, erano tutti che imitavano Pino il Segno. Uguale a quello di prima. Per cui è affascinante anche il percorso didattico. Poi c'è il riscaldamento della voce che noi non facciamo mai. Sbagliato. Mai, come se un atleta prima del salto in alto dei 100 metri non facesse lo stretching adeguato per quella tecnica, poi perché e per quella persona, perché c'è da dire che siamo tutti diversi, per cui anche il tipo di riscaldamento e di raffreddamento a fine performance andrebbe proprio strutturato. Che poi basta in base poco, alla persona. Insomma, ci sono quanti tanti di riscaldamento? Io ho sentito parlare ultimamente del voice craft. È un metodo, è uno dei possibili approcci, insomma, ce ne sono molti. Gli esercizi di riscaldamento non devono essere lunghissimi, insomma, chi si scalda anche una per persona un'ora normale, e mezza, casalinga, oppure uno che si alza la mattina, la prima cosa che deve fare con la sua voce, che cos'è a parte parlare, non strillare, buongiorno tesoro, queste cose. Metti a posto lo straccio, vattene dai denti, corazza, dai che andiamo alla scala. Grazie, questo è un ottimo riscaldamento. Perché non mi portate Tiziana per spiegare alle persone il tutorial? Tutto fa una fatica per cercare di fare un tutorial radiofonico. Sono dei video, no? Dei mini video. Dei mini... Così no, si perde. È uno specchio meraviglioso. La mattina quello che si fa spontaneamente funziona, nel senso stiracchiarsi, sgranchirsi, quindi un risveglio. Innanzitutto fisico, perché la voce è parte del corpo, quindi non si può pensare di riscaldare la voce senza prima aver attivato il corpo. Quindi in realtà noi facciamo già spontaneamente quello che dovremmo fare. Cioè, bisogna fare l'amore appena svegli, è un consiglio. Io no. No. Come no? Magari evitiamo di baciarci senza preliminari di prima mattina, grazie. Non lo dico. Non... Perché anche quello è stiracchiarsi, insomma, comunque può essere un'attività ottima. Sì, insomma, vabbè, diventa già impegnativa. Sì, ho capito. Dipende. Vabbè, okay. Erika, la mattina, evitate la mattina, Erika. A stiracchiarsi il corpo, eccetera. E le corde vocali come si stiracchiano? Facendo dei passaggi tra note basse e note alte. Quindi semplicemente uno stre... Sempre facendo l'amore. Basta! Ferma! E stamattina mi stupisci! Ma non è così, ti prego. E poi ci sono esercizi anche per risvegliare la muscolatura che serve poi a sostenere la voce, quindi anche esercizi con molta presenza di aria insieme a poca presenza di suono, tipo... in modo da sentire. Tupino, lo fai passare per un esercizio. No, con la bocca si fa, non bisogna darsi delle aria. Tu di sempre che è un esercizio. Tiziana, perché non dovevi andare via te? Mannaggia la miseria. E con la puzza come risolvi? Carissime dottoresse, come definireste la voce di Pino Insegno, Mario da Rimini? Bella, profonda. Figa. Figa, mi sembra giusto. Erika, espressiva. Espressiva. A me piace molto quando è vera, quando lui non si gigiona, non si ascolta, e molte, molte volte riesce a farlo. Dipende dai direttori di doppiaggio anche. Eh sì, quello poi. Ma io utilizzo poco la voce. Però diciamo bella, nel doppiaggio. No, no, perché certo. Perché non serve. Tanti attori, Sacha Baron Cohen, Will Ferrell. Veramente grandi Mortensen, lavori. Se degli Anelli aveva una voce, La promessa dell'assassino sì, era sì, russo, per cui la voce certo. È leggera, è diversa, non te devi piacere più di tanto. Va bene, dobbiamo salutarci per adesso, perché torniamo. Pino, Ima, Summa e Giuni Russo, dove collocarle? Api, tu sei e non io ero. Questo è un pezzo di Suburra che gli fa, tu eri, io so. Che queste cose esagerate, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, rispondiamo tra poco torniamo con le dottoresse e questa disgraziata. E i video. I video tutorial di Tiziana Foschi, tra poco con Voice Anatomy, grazie. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno a Voice Anatomy, sempre qui con le dottoresse, ormai il loro acronimo è diventato questo, Tiziana Foschi. Perché alziamo la voce al telefono, dice Claudio, ma alziamo naturalmente, c'è uno sketch di Walter Chiari bellissimo, che più parlava con uno lontano e più, più portava la voce, alla fine a New York, ehi mi senti? Perché sembra, insomma, è naturale che succeda una cosa. A proposito di telefono, abbiamo una telefonata, e allora pronto, eccomi, Franco da Modena. Sì, buonasera. Ciao sentito. Franco. Ciao, ho sentito la vostra interessantissima telefonata e sono contento che affrontiate questo tema. Sì. È un tema che io conosco non personalmente, ma grazie, diciamo grazie perché voi è una bellissima cosa. A un mio amico che è stato laringetto mizzato. Sì, sì, sono loro, da te, dottoressa, tranquillo Franco, tranquillo. Tranquillo, Franco. 30 anni fa e adesso è diventato il presidente della Lega Tumore di Modena, quindi se volete lo potete contattare, forse lo conosce la signora. Però la differenza che c'è fra quello che vi voglio segnalare nel caso che la dottoressa non lo sappia e quello che so io è che questo mio amico parla con la stessa voce, cioè con le stesse armoniche della voce che aveva prima, pur essendo stato operato completamente, certo. Capito? Per cui è stato studiato negli Stati Uniti questo caso, perché è tutto un sistema che usa lo stomaco, usa, sì, insomma, sì, credo di aver capito. Parla della voce ritmofonica, quindi la voce che viene prodotta dall'esofago, poi è chiaro che le armoniche invece sono quelle che si formano all'interno della bocca per la forma. Beh, sì, è stata brava, conosco, chi l'ha aiutato, sì, o bravo, brava probabilmente chi. È stato molto bravo lui a cercare, credo, è così? Sì, lui ha un sistema che fa in modo che la sua voce è uguale, identica a quella che aveva prima. Ma da solo ha fatto tutto questo percorso? Sì, l'ha fatto lui adesso insegna agli operati, sì, e che bella a cosa, parlare. Mettiamoci, facciamo una cosa, Franco, tanto adesso resta in linea privata con Gaia e lasci il telefono di questo tuo amico, sì, che sicuramente sì, lo contatteremo con la persona giusta, ovviamente, vicino. Molto volentieri, perché certo. Stiamo facendo insieme un'azione anche nelle scuole. Benissimo, sì, sì. Ottimo, è quello che io, guarda, fra un po' avremo anche il ministro della pubblica istruzione, persona molto attenta, Stefania Giannini. Persona veramente interessante sotto tutti i punti di vista, per cui lascia il tuo numero, ce l'abbiamo, Franco, lascia il numero della persona presidente della Lega Tumori, che ci interessa tantissimo, come quella dell'Unione Ciechi, eccetera, perché il percorso della voce è fondamentale e da questo punto di vista lo è ancora di più. Franco, grazie della grazie. Tua testimonianza, resta in linea con Gaia e lascia tutti i riferimenti. Grazie Franco, grazie, un abbraccio, buona domenica. Beh, bello queste interazioni. Sì, sì, molto interessante. Questa è una delle possibili voci dopo, appunto, purtroppo, l'asportazione della laringe. E si può riuscire a ritrovare. Si manda in qualche modo un po' di aria all'interno dell'esofago e poi quell'aria viene rimandata fuori per parlare. Per cui non può fare un discorso lungo, insomma. È chiaro, sono spezzato, frasi molto spezzate, molto, molto breve, ma anche laddove usano aritenoidi, epiglottide, è chiaro che sono sempre frasi piuttosto brevi. c'è bisogno di riprendere aria. Ma è bello se riusciamo anche ad unirci, visto che sta anche a Modena, a riunire, a fare qualcosa di integrato con loro, fra didattico reale, privato, come fate voi, ed è giusto che sia così perché è il vostro lavoro, e poi perché ne dà anche da un'altra parte, aiutare le persone che magari ne hanno più bisogno, perché la voce non bisogna aspettare di perderla per capire quanto è importante. Certo, come tutta la parte del sovraglottico davvero in questo senso è stata fondamentale, veramente fondamentale. Sì, io il sovraglottito l'ho scoperto con voi, ragazzi, per cui non mi vergogno a dirlo, perché pure Tiziana è sovraglottito, tu ne parlavi mai. Oddio, c'ho un cugino che era sottoglottito, però... Sì, però, perché non aveva studiato. È troglodita, quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. La voce estrema non viene mai considerata tanto, diciamo... Perché uno pensa a voce estrema, pensa a lui, oddio! In parte però anche è quello. Nel senso, però tutto ciò che è estremamente su, quello che vi ho fatto sentire, ma anche quello che è estremamente giù o addirittura altrove, tant'è che la voce sembra non essere quasi umana, quindi viene trattata poco perché si utilizza poco, perché ci si riconosce poco in quei suoni. La voce per parla cui di noi. Potresti essere una medium falsa a questo punto. Molto bene. Sono anche le voci degli esorcismi o delle medium, insomma, però la voce dell'altrove. Esatto, quelle voci quando non hai studiato, cose capita a te, può succedere, ecco, sta fingendo, non lo sai, puoi bluffare, ma una persona normale che utilizza quelle false voci o quelle voci altrove, insomma, lì fa un po' di... Fa molto effetto. Io mi ricordo, li usavano spesso quelli del Tagadà, per far arrivare la gente a Luna Park. Venite, venite al Tagadà! Ma non è una falsa voce questa, è uno che deve... Buona! Chiudi il microfono, Alessandro, per quella è una vociaccia per cercare... Sì, i bambini piangete che mamma mi porta in mezzo al mare. Ho capito, ma un'altra cosa, i suoi venditori. No, ho capito così. Io mi sento oggi pomeriggio, mi sento come, sai, quelle moti con quello con l'occhioni, no? Tutti cerchiati. Perché è affascinante e interessante tutto questo. Però capisco poco, ecco. No, lo so, e se hai capito anche questo, ma allora chiedo scusa per Tiziana. Dico, c'è un sito comunque, perché vorrei che le persone si mettessero in contatto con voi, a parte che cerchiamo sempre di integrarla di più questa trasmissione e fare delle tavole, non rotonde perché non c'entriamo, ma magari semicircolari. Beh, noi siamo sempre molto disponibili e reperibili anche sui social network, quindi in particolare su Facebook. Poi abbiamo... Per cui se il tuo nome e cognome, Erika... Cioè, Erika Biavati 2, che è quello più aggiornato, la Erika nuova Biavati, perché non fai un official page tecnica? C'è anche per... quella, ma è artistica, per cui insomma... Vabbè, magari se uno ti vuole cercare come insegnante, come sì, tutto... Mi si trova dappertutto, sono sempre io comunque, uno, due, quello... Sei sempre tu. E poi Ele Bruni. Ele Bruni invece di Eleonora, per un vezzo mi chiamano tutti Ele, e quindi Ele Bruni è la mia pagina, poi c'è invece Eleonora Bruni, c'è la pagina artistica. Poi abbiamo i nostri siti, quindi ericabiavati.it, eleonorabruni.it, e i siti delle nostre scuole, associazioni, trovate tutto quanto. Ma basta, e c'è trovare una un di sito voi. Che ci unisce invece, che è voice2teach.it, che è appunto il sito di riferimento del corso che teniamo per gli insegnanti di canto. Ecco, lì ci siamo entrambe, la nostra creatura, il nostro bambino. Il nostro bimbo. Sia italiano e... Inizi italiano, scusate. Sì, italiano a Roma. E matematica. No, a Roma e a Bologna, solo a Roma. Insegniamo a Ravenna per questo corso. insegniamo a Ravenna, è un corso particolare perché è una full immersion in cui siamo una settimana con un gruppo di insegnanti di canto e facciamo un lavoro di forte approfondimento. Questo è proprio per professionisti. Ed è bellissimo, no? Sì. Perché gli insegnanti che vogliono comunque formarsi, che vogliono comunque essere aggiornati e che si mettono in qualche modo in discussione, magari adesso dopo 30 anni di aggiornamento, meravigliosa professione, cose molto belle. Siamo pronti anche noi a venire, nonostante i 35 anni di professione, ma certe volte veramente è stata fortuna o è stata intuizione, oppure imparare rubando a destra e a sinistra, studiando sicuramente, ma mai approfondendo un discorso così importante. Ma anch'io, guarda, quando abbiamo cominciato questa avventura di Voice Anatomy, sapevamo che entravamo in un mondo importante, declinato in tante sfaccettature, ma non così profondo. Cioè, si è trovata veramente, ecco questo, grazie, li ringrazio veramente di cuore, Alessia Navarro come capoprogetto e Damiano Fabiani, sono stati straordinari a trovarvi. Come trovare voi, come trovare i professori, i vocologi, i filosofi della voce, gli etnomusicologi, etnovocologi, cioè un mondo, dico, ma dai! sì. esiste. Sì, sì, c'è un cioè, uno pensa agli attori, pensa ai doppiatori, e ve lo dico io, per questo sto cercando di forzare l'andatura anche alla casalinga, all'impiegato, al manager semplice o anche chi fa un lavoro normale, a cercare di approfondire di più nel mondo della voce. Ci sono persone perché che vengono a lezione per quello. Si può fare. Sì, sì. Capito? Si può anche leggere una poesia, è bellissimo. Damiano mi sta dicendo qualcosa, ma non leggo i labiali, cioè le leggo per motivi professionali, ma non capisco quello che sta. No, non è niente, parla da solo. Va bene, i nostri autori parlano anche da soli, carissimi. Succede. La sfaccettatura della voce. Però ecco, un tutorial, ecco, il nostro sogno è anche cercare ogni puntata, adesso se riusciremo ad allargarci un po' di più il prossimo anno, la prossima stagione, noi dureremo fino a giugno-luglio sicuramente, ma da settembre. Il sogno sarebbe quello di allargare, magari non quotidianamente, con dei tutorial importanti, avere dei professori come voi o delle dottoresse, come vi chiamano ormai in maniera molto sensuale, di aiutare le persone con dei piccoli esercizi, come chi fa ginnastica e non c'ha tempo ad andare in palestra, accende il televisore e si trovava la già in fondo della situazione a fare i primi movimenti di stretching, eccetera. Dai, perché facciamone uno insieme. Sì. Eccolo là. Sai. Il primo, l'ABC. Uno. Quando andiamo in pubblicità, prima di... Fra un minuto e mezzo. Due minuti e mezzo. Abbiamo un primo tutorial, primo esercizio di base. Di base. Dai. Fateci subito. Fare un sì. esercizio. No, fallo tu, io sono faccio il conduttore. Io, che devo fare? Da buona. Beh, R anche. Sì. Allora c'è... L'R mi piace. Questa non esagerate. Lo facevo da piccola, facevo pure con le braccia però. No, tizia, cioè, serio. Gotte, no. Non te faccio più venire. La R va fatta però con molta dolcezza. Quindi non è trrr, ma trrr. Okay. Non è, o meno dolce, un po' meno. Non fa la comica per un attimo. Depressa questa però. No. Si può fare un bel glissato, quindi come? Dal basso all'alto. E non, poi torniamo. Non è facile. Aspetta, stai zitto, mi guardi male. Dai. Com'era? Quella faccia molto ridere. Felice, sì. Aspetta, cioè, devo rimettere in moto. Aspetta. Toglieremo subito tutta la tensione della muscolatura del collo. Ma io c'ho un collo a modigliani, è bello. Ma hai fatto un collo meraviglioso che lasceremo libero. E quindi... Mi si gonfia vena, beh. Sì. Brutta, beh. No, è difficile. È difficile, non va su. Mi fio impazzito, fermo. Ci ho messo su torbina, c'è pinno ma non c'è casco. Non è facile. No, a volte alcune cose sembrano banali, in realtà bisogna fare attenzione a tanti aspetti fisici. E questo proprio. Già libera, cioè l'escursione vocale da già una prima escursione. Come fatta secondo in un esercizio? Certo modo, sì. Sì, cioè, no così ovviamente. Pino, fallo tu il secondo esercizio. No, il tutorial senza di te. I tutorial dai, non sì, si lo fanno. Voglio fare il mi tutorial e poi mi sta... Una cifra bene a me il tutorial. Non parlare romano, tipo, andiamo in tutta Italia. Tipo tutina, capito? Tutta tutorial. Ma dove andare via la Fuschi? Ma costa il fisico. Zitta. Dai. Una cosa che notiamo che sbagliano in tanti, diciamo anche molti attori, è il modo di attaccare il suono. Per cui l'inizio. Spesso lo si fa in maniera troppo brusca e questo fa sì che poi si usi la voce in maniera abbastanza faticante tutto il tempo. Cioè? Quindi un esercizio può essere anche solo i, i, i, i, i. Ecco, già è buono. Ma, delicato. Non ridere, ma non si può fare così. Mi guardami, ma non ti... guarda, paura, fallo ma... bene, dai. Ora sei cretina. No, dai, chiedo dai scusa. lo faccio. No. Meglio della R, questo viene meglio della R. È vero, di là anche Alessia Navarro che cerca di imparare a cantare, ma è di un altro mondo per te, sarei una grande attrice. Vabbè. Diciamo che con i vocali vado meglio. Ciao Pino, magari l'avete già detto, Tiziano è parente del grande Massimo Foschi, il grande doppiatore dal Fener, no, Massimo magari. Foschi. Non mi hanno preso all'Accademia perché ne ero parente di Massimo Foschi. No, mica prendo i raccomandati all'Accademia, mica questo sto dicendo per carità, però me l'hanno chiesto, che parente? No, allora si sono messi a fare colazione, no. Mentre io recitavo Jean Genet, le serve. È meglio. Perché così ha fatto parte della premiata ditta. Bella. Sta buona. No, grande Massimo Foschi. Grande, anche il figlio, come si chiama? Non mi ricordo. Non lo conosco il figlio. Molto bravo. Molto. Sì, bravo. Molti figli, molti bravi. Va bene, ci sta. Salutiamo poi per l'ultimo blocco insieme, poi sentiremo un po' tutti convocati, anche i risultati oggi, che non so veramente niente. Sarà che io tanto il dispiacere ci avrò stasera. Comunque, a tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, ultimi minuti insieme prima di passare la linea a tutti i convocati. Questa interessantissima domenica delle palme, molto tutorial, anche divertente, grazie alla presenza di Tiziana Foschi. Tanti messaggi, vi ringrazio. No, non posso raccontare, caro Mario, l'aneddoto di quando ho incontrato Viggo Mortensen, perché durerebbe 10 minuti, ma lo farò, sarà stato molto divertente. Un altro bellissimo messaggio fra i tanti di Luisa: caro Pino, oggi sono ritornata a scuola, ho imparato quanto la voce mi avvicina o allontana delle persone, di quanto si ha bisogno delle altre persone. Certo, Luisa, anche questo è importante, per questo la voce è importante. Avevamo cominciato con i primi due esercizi di tutorial, ma con Tiziana non si possono fare, mentre questo è divertente e anche aiuta anche a casa, perché come si faceva ginnastica, come ripeto, dalla televisione, perché non è tempo di andare in palestra e magari fai quegli esercizi giusti per tutti, perché no, non fare 5 minuti al giorno, regalarli alla propria voce e imparare ad ascoltarsi, ad accettare la propria voce, le proprie intenzioni, a riscaldarla, a sapere che si può anche trovare anche quando non si ha. E soprattutto evitare di fare quegli strilli, quell'unico strillo che ti permette fatale. Poi di perdere la voce totalmente. A volte basta poco. Sì, basta, ripeto. Ma voi fate dei video tutorial che la gente può veramente cliccare? No, perché il vero problema dei video tutorial è che vanno molto ben pensati, perché siccome appunto... Non vanno bene per tutti, ecco, poi. Siccome molto personalizzata è difficile trovare l'esercizio universale. Però non si possono trovare delle tipologie comunque, no? Possiamo trovare delle tipologie, la realtà è che però l'esercizio per essere efficace va fatto bene, e quindi è molto difficile vedere cosa accade quando poi la persona fa l'esercizio che nessuno controlla e non ha quel riscontro da parte dell'insegnante che poi certo. In qualche modo conduce. E poi l'altra parte ovviamente riguarda tutto il grossissimo lavoro sul respiro, che è un respiro efficace, come dire, atletico, però anche di grande libertà, e che si sposa bene con le esigenze vere del corpo. Questo sì che fa bene a tutti, al di là del lavoro artistico. Respirare bene, sì, è fondamentale, quello è il primo esercizio. Ci cambia respirare la vita. Bene, però respirare, diciamo, bene. Che ti uscire l'aria, ecco. Avere l'insegnante di fianco che ti dice: hai fatto l'esercizio bene, l'hai fatto male, esatto, sbagliato questo, è un altro discorso. E a me personalmente, che appunto ho avuto tanti problemi da cantante, non sono bastati libri, tutorial, ho dovuto seguire lezioni con l'insegnante. Lei supera di tutti i problemi da cantante e da donna soprattutto, sì. Da donna, dici? Sì. Insomma, non so adesso. Che tu hai detto, cominciato. Diciamo, i problemi tecnici sì, quelli vocali sì. Poi sei una bellissima, sì, ecco. Donna, siete tutte e due belle donne, tu sei... un po' più giovane me. Sì, io ho 34 anni. Pino, non ti infognare in cose. No, io lo dico, io ho 53 anni. Beh, complimenti. Grazie. Dai, guarda la Foschi pure. Oh, zitto! Ma ce l'hai. Che lo stai per dire? No, zitto! Sono 35 anni che lavoriamo insieme. Ho 35. A settembre sono 30. Ho capito, 30 ufficiali dalla televisione. Ufficiali di premiata ditta. Ho capito. Anzi, dobbiamo fare una festa, comincia a fare qualche assegno. Oh, fa mutuo, io, una vabbè, sì, no. Dai, organizza te che allora, sei più ricco. Rimanete qui e mi convoco, mi connetto con... chi c'è lassù a Milano? Indovina! Indovina, il mio amico. Attenzione, sono le dottoresse Tiziana Foschi che ti ascoltano, eh? Non so allora. Di che squadra sono le dottoresse. Di squadra che squadra sono? Tipo niente, si sì, può dire. Niente. Io siamo niente appareggiato. Sportive. Sono agnostiche. Niente appareggiato. Io so da Garbatella. Fatte. A Garbatella ci sono solo della Roma. Lo so. Allora no, io, tu lo sai anch'io, sono privo di interesse ormai da qualche settimana, per cui ascolterò asetticamente e oggettivamente, caro Capuano, i risultati che sono andati in onda in questo pomeriggio. Dimmi tutto. Allora, ti racconto che intanto siamo ultimi secondi di partita, sì, infatti, su tutti immagino. I campi, però c'è qualche situazione delineata, soprattutto quella della Juventus che sta vincendo 4-1 il derby di Torino. Niente, non si è fermata, di un momento di depressione, sì. Niente. Non si è fermata, ma se ne parlerà a lungo, perché sì. Pogba che dira nel primo tempo, poi nella ripresa Belotti su rigore e ha fermato a 974 la striscia di imbattibilità di Buffon, 974 minuti, nuovo record. E al quarto d'ora, sempre della ripresa, c'è stato un gol annullato a Maxi Lopez per fuorigioco che non c'era. Quindi ti puoi immaginare da qui in poi che cosa accadrà. L'urlo. Quindi è arrivata poi la doppietta di Morata, 4-1 per la Juventus, che in questo momento è a più 6 sul Napoli. Il Napoli gioca alle 18 in casa contro il Genoa. Gli altri risultati che stanno maturando: 0-0 tra Frosinone e Fiorentina, dove c'è stato il Festival delle Traverse. Ne hanno prese due i giocatori della Fiorentina nell'arco di pochi secondi. Ne ha preso uno il Frosinone. Poi sta vincendo il Chievo 1-0 a Marassi contro la Sampdoria, gol di Meggiorini nel primo tempo. 1-1 tra Sassuolo e Udinese, Zapata per Udinese, Politano per il Sassuolo e pesantissimo sta vincendo 2-1 il Carpi a Verona, gol di Di Gaudio, Ionita e una bellissima punizione di Lasagna. Questo significa che finissero così le partite, in questo momento il Carpi sarebbe salvo. Addirittura. E soprattutto significa che ci sono 5 squadre in 5 punti per non retrocedere. Beh, un a bel questo punto si è riaperto un tutto. Un bel campionato. A parte il mio, insomma, giocherò stasera. Alle 20:45, Milan-Lazio. Vabbè. La Lazio che gioca contro il prossimo allenatore. Beh, magari, cioè, con tutto rispetto per il grande Pioli, perché credo che non abbia colpa alcuna, lo conosco personalmente, è una gran brava persona. L'avete scaricato in fretta. Sì, troppo in fretta, anche perché quella difesa faceva veramente sorridere, sembrava un film comico. Vabbè, ma non voglio entrare in un discorso, la voce si è spenta, come hai sentito, proprio la voce depressiva questa, non estrema. Caro Capuano, ti abbraccio. Grazie buona mille. Trasmissione come sempre, tutti convocati, a te i tuoi altri moschettieri. Dopo il GR ovviamente di Radio 24. Grazie amico mio, e soprattutto grazie a Erika, grazie Eleonora, detta anche Ele, ho detto anche le dottoresse, che noi riavremo molto molto grazie, è stato un piacere. Dai, ci date un esercizio per buona, salutarci, che dobbiamo salutarci. L'esercizio ciao ecco, ciao. Brava, sì, un addio. Bellissimo. Niente, Tiziana Fuschi partirà un mese fortunatamente per Bologna. Grazie Alessandro, grazie Gaia, grazie Alessia, grazie Damiano, grazie Radio 24, domenica prossima è Pasqua, noi saremo qui pronti a tenervi compagnia. Voice Anatomy.